Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Vorrei sapere se vi rendete conto del linguaggio che voi adoperate. Sì, e non ce ne frega un cazzo, Camillo. Tu pensi che i tuoi colleghi non utilizzino solamente il linguaggio formale, quello da ufficio, eccetera, eccetera? No, escono fuori, scorreggiano, ruttano, scopano. Probabilmente sarà anche laureato lei, si dovrebbe vergognare, guardi. Ma ti devi vergognare tu e le persone. Io tanto non gli ho dato del tu, le ho studiato del lei. Comunque lei, ma non me ne frega un cazzo di quello che mi dai. Io ti do del tu come do del ti a tu. Un linguaggio così scurrile. E quale sarebbe il linguaggio scurrile? Non ho capito. Quale sarebbe? Che dite, potreste evitarvele perché non c'è nessun motivo. E allora spegni la radio, non ci rompere il cazzo, no? Molto semplice, cioè spegni la radio, non ci rompi il coglione. Io ti lo vedi, lo vedi. Tu del tuo figlio della mignotta. Ma scusa, non bisogna dire le parole. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Gioia. Nelle puntate precedenti. Davide! Eccomi. Dove sei, Veneti? Se potete chiamare i carabinieri. Tengo a precisare una cosa, che io non ho realmente bisogno delle vostre telefonate. Io non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno, avete capito? Brutti stronzi, brutti schifosi, latranti come bestie, con la pelle già in cancrena, avete capito? Per cui parto subito col primo disco adesso. Buonasera a tutti, buona fine di agosto. Finalmente pure quest'estate siamo levata dal cazzo. Dopo questa farsa, l'ennesimo anno, si chiude, siete tutto, inchiudete un cazzo come sempre, perché la droga è la droga, quindi signori, fo' alle micce, si ricomincia. Ehi, rincoglionito, tu, proprio tu, se senti la mia voce sei nel posto giusto. Hanno fatto tanto il teatrino, ricomincio, non ricomincio, per me si a romperci i coglioni, ma vaffanculo, tanta ansia per nulla. Ma del resto come fanno a chiudere? Ci sono troppi psicopatici e senza la zanzara che fa da catalizzatore andrebbero in giro a fare danni. Invece per almeno 2 ore sappiamo dove sono. Del resto la zanzara è come Freud, senza di noi psicopatici non avrebbe senso di esistere. Ed oggi si ricomincia con le sedute. Stiamo riaprendo le gabbie! Direttamente dalla cucinetta, buongiorno a tutti quanti. Diciamo che questa mattina inizia la mia stagione, lavorativa, la mia stagione fisica, mentale, la mia stagione di dieta. Diciamo che dal dopo pandemia si salvi chi può, non mi sono allenato mai, ho mangiato malissimo e quant'altro. Oggi iniziamo, da questa mattina iniziamo a fare le cose molto molto serie. Quindi mamma mia, devo andare anche al bagno. Scusate, ma ho mangiato in questo momento, mi sto letteralmente cagando addosso. Detto questo, ricordatevi sempre, chi si ferma è sempre perduto. Iniziamo a lavorare, capo. Ma collegamento da Roma, David Parenzo, applausi. Buonasera, applausi, buonasera, applausi, buonasera, applausi a Parenzo. Mandiamo con gli applausi. Pochi minuti e già ho la pelle d'occa, però. Perché che è successo? Non ho capito. No, quello che ero già vabbè, tutto bene. Allora, ma cosa? Cosa? Di no, cosa parli? Benissimo, ero carichissimo, eccetera, felice. Il tuo di... amico, il tuo amico Alberto Gottardo in collegamento da Padova, non lo sai, ma è in collegamento da Padova. Abano Terme, in un lussuosissimo albergo 4 stelle di Abano Terme. Ecco la marchetta, ecco la marchetta. Ecco la marchetta. E non sono neanche da solo. E non sono neanche da solo. Sono sbagliato su un letto. Sì, poi ecco la marchetta. Ma perché la marchetta? Perché dici la marchetta? C'è una voce di don. Scusa, nome dell'albergo è la marchetta. Nome dell'albergo dice la marchetta. Cosa vuoi dire? Quando andavi in montagna prima del lockdown non era una marchetta. Scusa. Ma non dicevo il nome dell'albergo. Sì, ma non dicevo il nome dell'albergo. Tutto qua. Comunque no, non voglio attaccare Gottardo e chiedo scusa perché è la prima puntata, quindi chiedo scusa perché sarebbe come tirare un calcio a uno che sale le scale con le stampelle, sì, e quindi sarebbe non si come fa. Picchiare un nano nel tuo caso, no, ma lo dico davvero, cioè non si può attaccare uno che sale le scale con le stampelle, non gli si tolgono le stampelle, oppure tu vedi uno in carrozzina e chiede la carità, non gli tiri un calcio e lo butti giù dalla rupe tarpea, no, lo aiuti, e quindi siccome è così non posso. E cioè, tu dici, però no, ragazzi, non iniziamo così, ti prego. No, non iniziamo. No, ma più di dire scusa, mamma mia, interrompi sempre. Ho detto scusa. È come attaccare uno che ha le stampelle e togliergli mentre sale le scale. E ho detto scusa. Allora, ragazzi, qui abbiamo una cosa. Tu, praticamente, Parenzo, identifichi Gottardo come un negazionista. Diciamo, beh, no? Immagino in piazza. In questi giorni, abbiamo visto sfilare molti negazionisti. Sì. Molti negazionisti. Hanno detto che era un'influenza, una banale influenza. Non c'è. Partiamo COVID. Da quello che. Partiamo da Roma, dai, partiamo da Roma. Più a questa dittatura di mettere la mascherina ai nostri bambini, non voglio più vedere un bambino con la mascherina, non lo voglio più vedere. Non andate, non mandate i bambini a scuola, i bambini a scuola in queste condizioni non ci vanno, dite no, no, no, no, no, no, stop, stop, noi dobbiamo fermare tutto questo che vogliono fare i bambini. I bambini non si toccano, giù le mani dai bambini, perché vedrete le mamme con i lanciafiamme pronti ad entrare in Parlamento e a sbattermi fuori! Satanisti, pedofili, Papa Bergoglio, il primo gesuita! Vergogna! Vergogna! Però scusa, io che cosa c'entra il satanismo, pazzesco, Papa Bergoglio, pazzesco, la pedofilia con i vaccini e con il Covid? Questo non ho capito, perché per me va benissimo la libertà di parola, i negazionisti devono manifestare, tu li faresti arrestare tutti quelli là, ma chi se ne frega, si assumono la responsabilità, ma per se te non andrebbero arrestati. Se non rispettano le norme, però. Ma quelli possono manifestare in pace, possono fare quello che vogliono, non è che uno assembramenti, vietato per ora, non si può fare. Tu avresti fatto una grande retata di quelli là, retata. Sì, del Servizio Sanitario Nazionale in una prima fase. In una seconda fase, una volta disposti dei migliori ospedali del paese, della nazione, anche indagati per casino, per diffusione del contagio, scusa. Ma come cazzo ci fa? Io dico, ma la libertà di manifestare, tu avresti arrestato quelli là. Ma non li puoi, anche ma dire... senza mascherina, a sputazzare in giro. Posso dire una cosa, ragazzi? Bisogna capirci bene. Qui siamo ormai prigionieri dei protocolli sanitari. Siamo ormai prigionieri dei protocolli. Ti fanno fare tamponi, qui non fanno fare un cazzo qui a Radio 24. Qui al Sole 24 ore non fanno fare un cazzo. Scusa, altra indicazione, per piacere, altra indicazione che ho parlato con l'azienda. Dimmi. La stagione riprende. Sì. Okay, siamo in onda, non si chiude più, non si chiuderà mai più, ma non possiamo mai più pronunciare la parola Radio 24 e Confindustria. Cioè, l'azienda vorrebbe che facessimo finta di non essere su Radio 24, quindi non pronunciamo parola Radio 24, Confindustria, Sole 24 ore. Facciamo finta di andare in onda da un'altra parte. Parole proibite, capito? Perché se no sporchiamo i tre marchi. Ma questo con chi hai parlato? Scusa, con l'azienda. Parlato? Chiede, dice andate in onda, però per piacere non pronunziate il numero, nome Radio 24, Confindustria e Sole 24 ore. Non si, no, facciamo finta che non va. È una radio, diciamo in onda su una radio. Buonasera, amici, siamo in onda. Ma chi te l'ha perché detto? È vergognoso per chi ci ho. Perché mi dispiace per gli altri programmi che vanno in onda. in onda, mi dispiace per il direttore Tamburini del Sole, mi dispiace per la Confindustria, dottor Bonomi, mi dispiace. Quindi ho parlato con loro, hanno chiesto se per questa stagione possiamo fare a meno di dire Radio 24, Confindustria, Sole 24 Ore, il resto possiamo dire tutto, ma questo no, per piacere. Quindi ecco, benvenuti in onda su una radio, grazie di essere con noi e andiamo avanti, questo è il tema. Meluzzi, c'è uno scuro disegno, uno scuro disegno. È chiaro che tutto, dietro a tutto questo c'è uno scuro disegno. È fuori di dubbio che una roba del genere a livello planetario non può essere gestita se non attraverso una corta cabina di regia. Ma quale? Ma allora che cosa c'è dietro? C'è soltanto la voglia di vendere questo vaccino inutile o c'è di più? Inutile. Io credo che ci sia di più. E credo che questo di più sia il bisogno di un'elite planetaria di esercitare un controllo su miliardi e su milioni di uomini che non è soltanto un controllo di tipo sanitario, non è soltanto un controllo di tipo psicopoliziesco, non è soltanto un controllo, ma è quello di un vero regime in cui un'elite deve dominare in modo totale e definitivo. L'elite che domina il mondo, l'elite. Sì, a confronto, il buon Gottardo sembra lucido, a confronto. Però Gottardo non parla mai di elite, a confronto. Sto facendo solo complimenti, mi attaccate, però è pazzesco. L'Apocalisse che io suggerisco di rileggere, non lo dico io perché sono un povero monaco ortodosso, ma sei un povero monaco. Parla di un certo punto del trionfo dell'abominio, e noi ci stiamo avvicinando al trionfo dell'abominio, quello del 666, del segno della bestia, che gli esseri umani dovranno impiantarsi sotto pelle, senza il quale non si potrà né comprare né vendere e quindi vivere. Ma chi è che vuole mettere sotto pelle il chip col segno del diavolo? Chi lo vuole fare? Meluzio, però io ti voglio bene, ti ammiro anche, ti stimo, cioè ti conosco da un sacco di anni. Ma perché non glielo dici in faccia? Ma glielo dico anche. Perché nessuno... mi lasci da solo? Perché mi lasci da solo con questo pazzo scatenato? Perché tu mi hai costretto a continuare questa trasmissione, perché la verità è questa, caro Gottardo, diciamolo chiaramente, io sono stato costretto a continuare questa emissione radiofonica costretta. Per motivi alimentari. Esatto, perché sì, Parenzo ha avuto il quarto figlio. Questo può e dunque, essere, a causa del contratto, diciamo, consistente, diciamo così, poi sveleremo tutto, anche le cifre, anche i dettagli. Ma non c'è niente da causa di questo cazzo di contratto del quarto figlio, soprattutto di Parenzo, mi ha detto: guarda, io purtroppo non posso fare a meno di questi soldi. Odio questa trasmissione, non la sopporto, andrebbe chiusa. Odio chi chiama. No, la trasmissione sì, no. Odio chi telefona. No. Sì, però mi hai chiesto, dici: guarda, non ne posso fare, purtroppo. E a questo proposito, fammi anche ringraziare, dico scevro da qualunque tipo di conflitto di interessi. Ma chi vuoi ringraziare? Non ho capito. Gli amici della 7, in particolare il dottor Ghigliano, il dottor Legato e il direttore. Perché è stata una stagione veramente fantastica. Avete perso quasi ogni puntata, cazzo! Con i vostri avversari. Dal profondo del cuore, davvero, perché lo dico, però scevro. Scusami, Gottardo, digli qualcosa tu, ti prego, accendete un po' le luci, digli qualcosa tu. Se fosse un gatto, Parenzo, io l'avrei già fatto sterilizzare. In realtà, io l'avrei fatto castrare a un certo punto, tac, un taglietto, vai via, è più tranquillo. Gatto, Parenzo. Perché se no tocca fare una terza. Tocca fare un'ora in più di Zanzara l'anno prossimo, se tu continui tu a riprodurti, Parenzo. Dice che non devi fare più figli. Basta. Un taglietto, Parenzo, tac, ti ingrassi un po', siamo a posto. Il secondo taglietto sarebbe il secondo taglietto si potrebbe anche pensare. Fermola. Ciao, quando cazzo incomincia di nuovo sta zanzara? Io al lavoro mi sto rompendo il cazzo. La zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800 24 00 24 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Ma stasera si riparte, cagoni, vi siete fatti un mese e mezzo di ferie. Ma non so se ripartiamo, se riapriamo, siamo disponibili a vedere. Stasera sei a battere cassa, merda. Sono 5 mesi che aspettiamo lo scontro Parenzo Gottardo, comandante David, annientalo. A Allora mi mandate Briatore un attimo, l'amico Briatore un secondo. Parenzo gli ha detto di tutti i colori quest'estate, il virus dei ricchi. Beh, alla fine eri contento, quando sei, no, quando sei ammalato eri contento, eri un po' contento. No, questo assolutamente. Però hai parlato di virus dei ricchi, che cazzo vuol dire virus? Anzi, un amico gli faccio anche i migliori auguri. Dico che, ma no, dico semplicemente che bisogna intanto chiamare il direttore di Libero Feltri, che ha scritto gli immigrati portano le malattie. In realtà i ricchi portano le malattie, ha dimostrato quest'estate. Il virus si è sviluppato nelle zone dove le persone, quelle con più soldi, hanno avuto la possibilità di girare di più. Credo, che bisognava fare, scusa, libertà, non è girare, gli immigrati, libertà. Quindi non è gli immigrati portano le malattie, ma in questo caso, in questa estate, in particolare solo nella Costa Smeralda, perché mica tutta la Sardegna, le zone più ricche del paese. Beh, certo, perché la gente, perché la gente consumava, persone spendeva, con maggiore disponibilità, e allora si sono concentrate dopo aver girato mezzo mondo e hanno portato il contagio. Questo è quello che è accaduto. Il virus Smeralda, secondo te, virus, beh, fattualmente ha colpito molto la Costa Smeralda. Che c'entra Feltri con questa cosa qua, scusa, no, che Feltri non diceva sempre gli immigrati portano le malattie, dovrebbe aggiornare, cambiare, fare un titolo su questo, cioè i ricchi chiedersi portano le malattie. In questo caso è accaduto questo. Si delle periferie non mi risulta, ad esempio, che la gente non gira, poverina, non c'ha soldi, non gira. Chi ha girato mezzo mondo in un mese è tornato e si è ammalato. Ma mi dispiace, gli faccio gli auguri, ovviamente, ma è fattuale. Non mi sembra di dire una cosa così. No, ma così la cosa incredibile è questa, scandalosa. Per esempio, il caso Berlusconi. No, Berlusconi è stato blindato, ecco, poverina, per lui, mesi, esempio, e mesi, per mesi e mesi. Figli. No, pare ma figli, cazzo, ma a un certo punto hanno aperto le gabbie. Cioè Berlusconi è stato blindato, super protezione, e non vedeva ma una non persona. C'è, il virus non c'è, il virus non c'è. Non c'è. Scusi, che c'entra? Lo abbiamo sconfitto, lì non c'è il virus. Ma scusi, c'è. Zangrillo, che lo c'entra? Lo abbiamo sconfitto. Ma professor Zangrillo, però... lo dice la televisione, i talk show, non c'è il virus, non c'è l'infarto. Nella mia terapia intensiva non c'è nessuno, quindi non c'è il virus. Ma scusi, professor non Zangrillo, lo abbiamo sconfitto. D'accordo, lo abbiamo sconfitto. Ma l'altro il virus. Giorno, scusi, è morto. Clinicamente e l'infarto? Non c'è, non esiste. È arrivato l'altro giorno uno da me con una che gli faceva il male il braccio sinistro, diceva che aveva una fitta al cuore, gli ho detto vai a farti una passeggiata, un po' di tachipirina e vedrai che passa. Non è più tornato. Ma scusi, Zangrillo. Ma non è tornato. Mi hanno chiamato poi i parenti, mi hanno detto che è morto. Io dico beh, vai, sarà morto perché qualcuno l'aveva tirato sotto una macchina, perché l'infarto lo abbiamo sconfitto. Tecnicamente l'infarto non c'è. Ma come non c'è? Non ce lo dite voi. Lo dite voi, lo voglio dire chiaramente. Il comitato tecnico scientifico è dimostrato che l'infarto lo abbiamo sconfitto. Però. Nella mia terapia intensiva, ma che non c'è? Ma la gente nella muore mia, di infarto. Io ho detto una cosa semplice: nella mia terapia intensiva, il cancro? Abbiamo sconfitto. Io non lo vedo, non si vede il cancro. Cosa vedi? Cioè, è clinicamente non morto, c'è, è clinicamente sconfitto. Io nella ma mia come terapia, c'è gente che muore ancora di cancro? Nella mia terapia intensiva, non c'è. Sono sparite tutte c'è. Le malattie. Non esiste, no, io ce l'ho vuota la terapia intensiva e io so che cos'era quando capito. C'era. Ma che c'entra? Nella mia terapia intensiva e non c'è, è clinicamente morto. Non c'è. Grazie Zangrillo, ciao amici. Follower, non sono sparito. Follower. Eccomi qua. Meno male. Va bene? E vi ringrazio per tanti messaggi di affetto che ho avuto in questi giorni. Io continuo il mio isolamento, speriamo che finisca il prima possibile. Ho voglia di ricominciare. Sì, meno male. Ma nel frattempo sono occupato, stiamo monitorando tutto quello che succede. Sì. Che vuol dire stiamo monitorando quello che succede? I suoi affari, dice, sono, cose, in super detto, sono in super forma. Senti. Il tempo passa abbastanza velocemente. Meno male, sì. Beh, sono insomma. Nelle mani del professor Zangrillo, che non c'è, non è bravo di più. C'è. Per cui sto bene, mi vedete? In super forma? Pronto per ripartire? Bene. E dobbiamo ripartire. Ale. Allora, posso rivelare una cosa? Ho sfiorato la tragedia da Briatore. Allora, il 15 agosto, agosto a Porto Cervo, ero a Porto Cervo. No, non ero a Porto Cervo. Sono passato in un po'. Adesso non posso ricostruire. Ero un giorno a potrò andare un giorno a Porto Cervo con delle persone, non posso dire con chi. Può andare? La gente non può andare. La gente che vive a Quarto Giaro può andare a Porto Cervo. Non lo so, sì, alcuni vanno, lo stesso era pieno così di gente, anche di gente non certo altolocata, non tutti super borghesi e ricchi, Allora, sono andato a Porto Cervo un giorno, ho mandato avete sentito cosa? Ho mandato un messaggio a Briatore, guarda, sono qua in questo posto surreale che è Porto Cervo, se vuoi passo a farti un saluto. Domani mi scrive, domani, la mia salvezza, domani, era il 16 partivo, capito? Sono mai che ci sarei andato solo per salutarlo, certo, capito? Giusto, questo è certo, punto giusto. Sfiorato la tragedia assoluta. Gennaro da Caserta, vai, Gennaro, vai, iniziamo. Ciao Giuseppe, buonasera. Dimmi. Io su tante cose non sono d'accordo su Meluzzi, no, però adesso al 50% un po' di propaganda pure si sta divulgando, pure. È vero, c'è stata l'influenza, per carità, i morti ci sono stati. Ma che vuoi alla fine? No, alla fine voglio dire semplicemente, cioè, il fatto che per esempio tu senti i dottori che in televisione dicono non ci dobbiamo vaccinare perché il vaccino non bisogna farlo, e bisogna vaccinarsi. Tanti medici stanno divulgando la notizia che il vaccino non va fatto. Ma che vuoi, Gennaro? Che vuoi dire? Non ho capito bene cosa vuoi dire. Parlare, non ti faccio parlare. Finire perché già mi hai rotto i coglioni. Cosa vuoi? Dimmi, Gennaro. Ma perché ogni sera ci dobbiamo litigare quando ti chiamo? Ma perché sei un imbecille, questo è il punto. Ha ragione Parenzo su questo. Sei un imbecille. Che ti posso fare? Fammi finire parlare. Imbecille, va bene pure. Ma per esempio io sono della zona di Caserta, no? Prendi il caso dei palazzi Cirio, dove ci sono stati quei focolari, no? I focolari, i focolari, quella è un'altra cosa. I focolari, non mi mettere, è tu mi metti tensione addosso, per forza. Io ti metto tensione. Tu ci lavori con le parole, con la frase. Daniele da Fermo, vai a fare in culo, Gennaro, vai a fare in culo. Daniele da Fermo, dai, Daniele, dimmi. Bella Crucio! Dimmi, sta zitto, vai avanti. Dimmi. Ciao Gru, allora senti, io volevo fare un appello urbi e torbi, parliamo di cose serie. Voglio fare un appello urbi e torbi a tutte le donne presenti sul suolo italico e dire basta con la depilazione pubblica. Ancora con questa storia della depilazione pubblica. Basta, perché non è possibile. Cioè tu incontri solo donne depilate, come ce la porta? Ho capito, amico mio, però ognuno potrà depilarsi o non depilarsi. Io preferisco col pelo, quasi sempre, dipende dalle situazioni. Scusa Giuseppe, allora, ma tu quando vai a togliere una cosa, no? Che cosa guadagni? Vai solo a perdere. Questo non in generale, dici la sottrazione, capito? Qualcosa, la particolarità. È sì, ma ne abbiamo parlato. Che taglia le partite IVA a Radio 24. Che cazzo fai? La zanzara la uccidi. Sì, questo pure è vero, cioè, non è un ragionamento sbagliato questo. Come Barisoni taglia dei minuti, si prende dei minuti, anche la donna non dovrebbe togliersi il pelo perché sottrae e toglie qualcosa alla sua femminilità. Non è sbagliato. Pensa a quelli che gli tagliano un pezzo del prepuzio, per esempio. Questo è un altro. Voglio dire, se qua diventano tutte uguali, e che facciamo? Sì, no, ma è un ragionamento che ci sta tutto. Come sai, io sono un grande. Sono tutte uguali. Sì, sono anche questo. Un annetto fa, per scherzo, la mia consorte gli ho detto: ma fammela vedere una volta senza. Allora? Oh, e non c'è sta verso di farla ritornare come era prima. Cioè? Non c'è sta verso! Cioè non vuole. Che continua a depilarsela! Beh, ho capito, ma tu potrebbe farti un favore, però, e non depilarsela. Cioè, sei marito più o meno, cioè non so che ruolo hai. E perché se la depila? Perché cazzo? Perché gli è piaciuta così? All'amante piace così. Le do questa notizia. All'amante piace così. Sua moglie non si è depilata per lei. Si è depilata per l'idraulico. Vi faccio una rivelazione. Allora, in realtà ho scoperto che la donna depilata non è alla fine tutta uguale. Direte io a lungo ho detto questa cosa qua, per tanto tempo ho detto questa cosa, però anzi scopri che le vagine sono molto diverse tra loro quando togli quello schermo dei peli. Ci sono quelle più rosse, quelle più lunghe, posso dire di sì. Non è una ritrattazione, però è vero, che anche nella nudità della vagina, della figa, nella sua nudità la differenza si può esaltare la differenza. Scusa, però, che mo che sei passato all'altra sponda? E che devo fare, ragazzi? Ma nella vita si cambia, si può cambiare, c'è gente che era socialista ed è diventata fascista, c'è gente che è sovranista. Ma non ti sto tradendo, sto dicendo che in questa cosa, però, Gottardo ha ragione, non ha torto. Ragazzi, non ha torto. E poi comunque nella nudità della figa si esalta la sua differenza. Quello è possibile. E la figa non è né socialista né nazista, è di centro. Fermi tutti. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. La Zanzara. Oh, mi scoccia dirlo, ma lo devo ammettere. Mi stai sul cazzo, Cruciani, abbondantemente, te l'ho sempre detto più volte, ma in sta noia radiofonica mortale non vedo l'ora che ricominci stasera, davvero. Mi stai sulle palle, ma non vedo l'ora che ricominci. Vaffanculo, Cruciani, vaffanculo. Però ritorna stasera, mi raccomando. Vaffanculo e ritorna. Ciao. Oh scronzi, sembrate i dipendenti statali, è 5 settimane di vacanza, una vergogna, una vergogna. Era ora però, cazzo. Adesso soffrite, soffrite, soffrite. Soprattutto soffre Parenzo. Parenzo, non ti si può sentire, sei un culattone raccomandato. Lo sapete come sono? Urlo, mi agito, mi arrabbio. Lo faccio per denunciare tutto quello che non va. Ospedali abbandonati, boss liberati, sprechi, privilegi, bambini rubati a mamma e papà. Qualche risultato lo otteniamo. Bambini rubati. Ma per farlo non bisogna aver paura di rompere. Fai Mario Giordano conduce Fuori d'accordo, la nuova edizione. Tutto spaccato. Cosa spacca? Su Rete 4. Giornalismo di rottura. Beh, c'è abbastanza. Aspettatevi di tutto. Che genio, ragazzi. Che genio. Comunque, assoluto. La citazione di lui con la mazza, non voglio dire nulla, ma sì, lui sì, con sì. La mazza, solo i cultori ricorderanno che, io dico solo questo, lui con la mazza sì, da baseball, sì, sì, sì, che spacca. Fu la presentazione di Radio Belva nel esatto, 2013, esatto. Ormai fu, è una citazione, ormai dico solo questo, è una citazione. Mi segnalano che ad Abano Terme il signor sì. Alberto Gottardo giace certo. in un letto, giace in un letto sì. con una ragazza, con una donna, cioè tu stai poveretta. Trasmettendo. Bellissima, una delle più belle donne della televisione italiana. Io sto trasmettendo dal panoramico Hotel Plaza di Abano Terme. Vengo da un pomeriggio di idromassaggio. Vuoi comunicare urbi e torbi che ti sei scopato questa qua? Sostanzialmente, diciamo la verità. Magari. Io non voglio nemmeno sapere chi è. Sento la voce. Guarda, ma come questa qua? Io non lo so, non voglio sapere chi è. Poi lo sveleremo. Dopo lo sveleremo. Non si era incazzato sullo scopare, si era incazzata su questa qua. Su questa qua. Cioè, vuole comunicare urbi e torbi. Io non so quale sia la tua situazione matrimoniale, caro Gottardo, ma sei abituato a metterti nei guai. Vuoi comunicare alla zanzara? Sì, no. Non c'è una tradizione alla zanzara. Vuoi comunicare insomma, urbi e torbi che sostanzialmente sei a letto con una signora in un albergo e conduci da lì. Sono in un letto. Ma poveretta un letto, qua. Non sono poveretta, a letto. Perché poveretto sei tu? No, poveretto sei tu che una così l'hai vista solo in cartolina. Poverina. No, poveretto qui, sei tu. Ma cos'è assistenza al disabile? Cosa fa questa? Sai quelle ragazze che fanno la ricerca di psicopatici, soprattutto di narcisisti, quindi sono venuta qui in trasmissione perché sto scrivendo libro senti di narcisisti. Come lotta, senti come lotta. Potrei tranquillamente scrivere anche su un cover come te, quindi ma è tutto mentorio, no, che potrà anche fare assistenza ai disabili. Si signora, è una collega tutto, giornalista, hai capito? E sono qui. Signora, ecco, hai capito? Sono qui. Collega giornalista che giace in un letto. Collega giornalista che giace in un letto. Perché noi abbiamo una forma di innovazione facendo pure la marchetta. Del cazzo di Abano dove si trova? Ma state cazzo a 4 stelle. Un uomo come lei che dice queste cose, un collega giornalista, mi chiami collega prima di tutto. Collega? Quando ma si rivolge a me collega? Collega di casa, ma io sono giornalista. Collega? Ma quale giornalista che dorme più giornalista a letto con Gottardo? Ma giornalista? Ma giornalista? Tu sei due anni dopo di me. Ma fa più ascolti da te. Ma fa più ascolti di te. Ma questo fa più ascolti di onda. Giornalista? Una giornalista che sta a letto con Gottardo e dice la marchetta del nome dell'albergo dovrebbe essere mandata via a calci del sedere proprio. Allora, visto che lei ha un modo di fare televisione molto antico, glielo voglio ricordare questa cosa. Allora, lei non sa che ci sono dei modi diversi di fare le interviste. Scusi signora, però a me non me ne frega. Scusi signora, scusi un attimo. Innovativa. Io non ho ancora svelato lei chi è, poi lo sveleremo alla fine. Però scusami, no, voglio dire una cosa. Alla fine, però tutta l'Italia vuole sapere a questo punto, l'hai scopato sì o no? La risposta ma è quel sì no? O no? Ma dai, ma lasciamo un po' di suspense su questa cosa. Dai. cosa incredibile. Incredibile. Ma poveretta, avrà un po' di dignità questa qui, perché la devi umiliare così? Cioè, io non capisco. Perché la devi umiliare? Ma dico senza io ne ho tanta alcun... di dignità, la posso dai. Anche insegnare. Ma, no, ma la stavo io... difendendo, mi fai signora. Spiegare cosa sono venuta a fare qui? Non ce ne frega un cazzo, ma sono una persona educata, sì o no? Non ce ne frega un cazzo, signora, però. Signora mia, con grande ordine, procediamo con... Io quest'anno sono zen e accetto tutto. Ha detto che in un letto così ho gotato. Io dico, va benissimo, evviva. Dite il nome dell'albergo e dico, evviva, vabbè, non c'è problema. Per completezza. E in più lei aggiunge, sono una giornalista e giace, certo, a letto con Gottardo facendo il nome della marchetta dell'albergo. Ma no, l'ho fatto io, l'ho fatto io, signora, l'ho fatto io il nome. Lei non è Montanelli. Allora, lei è Montanelli. Una persona. Ma aspetta, aspetta, per forza. Aspetta che mi chiamano da nome. Lo sono giù, giù, giù, giù, sì, tutti, sì, giù tutti, giù tutti. Nicolò da Roma, vai, Nicolò da Roma, ragazzi, non si può dire un cazzo, dai, su, adesso abbiamo pure la donna che giace nel letto con Gottardo, sul ma letto dai, con Gottardo. Ma è un film horror, ma che cazzo è un film horror? Ma lo dico senza, senza nessuna cosa. Tu hai cosa parlato di assistenza sociale, però, ma prima. Ma, sì, sì, sì, modo... ma con te sarebbe un film horror, ma no, scusami. Ma cos'è, l'accompagno, cos'è, la 6-2, come si chiama? Dai, cazzo. La 104, ma ecco, quello sai. No, no, non ecco, è 104. Quella ferma, Nicolò 104. Da Roma, Nicolò da Roma. No, dovevo andare a lui. Nicolò da Roma. Dimmi. Nicolo. Dimmi. Pronto? Dimmi, dimmi, dimmi Nicolò, dimmi, dimmi. Io come io lotta? Sono come un lotta? Giovane appartenente alla sezione giovanile No Mask. No Mask, no, sì, mask, tu sei sì. No Mask, ma, giovane, mancava, giovane No Mask. Ottimo. Allora mancava, abbiamo una letto con Gottardo. No Mask. Fammi parlare. Sì, scusi signor allora, No Mask. Scusi signor No Mask. Hai 18 anni e sei No Mask. Esatto, e vorrei dire che è stato inventato dagli ebrei questa cosa. Chi è stato inventato dagli ebrei? Cosa? Questo cosa è stato inventato dagli ebrei? Ma cosa è stato inventato dagli ebrei, amico mio? Cosa? Ma chi sei? Mauro da Mantova? Ma chi sei? Mauro da Mantova? Attacca, attacca, Luciano, attacca. Ma io non sto attaccando niente, ma è stato inventato dagli ebrei? Cosa? Cosa? Cosa? Il virus? Giuseppe da Frosinone. Ma chi è? L'opinione dei molti. Giuseppe da Frosinone. Giuseppe. Dimmi, dimmi Giuseppe, dimmi. Dimmi, dimmi Giuseppe, dimmi. Riferendo ai discorsi che facevate prima, non ci sono discorsi purtroppo, quindi qui da noi c'era un motto. Sì, da voi dove? Sì, in Ciociaria, va. Ciociaria, sì. Qual è? Da noi si dice o pelosa o pelata, l'importante che è lavata. Importante che è lavata. Però anche su questo, però, caro Giuseppe, io potrei obiettare. Sì, Napoleone c'aveva delle preferenze d'altro tipo, dai. Esatto, sì, ma non solo Napoleone, anche Giuseppe Cruciani, adesso non voglio fare paragoni bizzarri, però anche inappropriati. Dopo le otto ore diventa insopportabile, però. Cosa dici? Ogni otto ore. È come gli antibiotici. No, no, no. Ogni allora, otto ore deve diciamo toccare la verità, l'acqua. Ragazzi, diciamola tutta. Dai. Più puzza, meglio è. Diciamola tutta, ma diciamola no, tutta la verità. No. Io non sopporto l'odore di pulito sulla figa. No, non vabbè, lo sopporto, però. Lo dico apertamente, lo dico senza infingimenti, senza usare... quest'anno non voglio usare le poche parole, diciamo, di prammatica, di forma che mi sono rimaste, le voglio eliminare definitivamente, caro Parenzo. Ma, definitivamente. Ma specie d'estate non puoi superare. Posso dirti le, una cosa? 16 quando ore. Sento l'odore del sapone della, sulla figa, una cosa che mi fa vomitare. Vabbè, ma c'è una deve via essere, di mezzo. No, il tra sudore. Il baccalà, tra il baccalà ma non e c'entra il sapone. Il baccalà. C'è una via di mezzo. Non c'entra il baccalà. Dai, non c'entra niente il baccalà. Si deve sentire la frore, il sudore, la puzza. Sì, ma un po'. Ho capito, pochino, ma non deve dai. Essere voluto. Però quando c'è, va bene, benedetta quella roba lì. Dai, Dario Damà, dai, su, dai, no, dai. Ma che fra poco ci collegheremo perché ha inventato nuovi format quest'estate. Un grande pensatoio frecceriano, Dario Damà, va dai, Dario. Ok, ciao a tutti. Però vi voglio sottoporre una cosa. Aspetta, Dario, aspetta un attimo, fermo. Vi voglio sottoporre una grande considerazione che fece Andy Warhol. Il grande Andy Warhol. Ecco, finalmente. No, no, no, ma è questa la cosa. No, ma guarda, è fondamentale. Meno male. Ognuno di noi ha una diversa idea dell'amore. Fino a qua ci possiamo stare tutti, giusto? Sia Parenzo, sia Gottardo ci possono stare, Gottardo in particolare. Una ragazza che conosco ha detto: sapevo, sapevo che mi amava quando non mi veniva in bocca. Sapevo che mi amava quando non mi veniva in bocca. Però su questo si può anche obiettare. Cioè Andy Warhol non è la Bibbia. Cioè ripeto, ognuno di noi, questa è la considerazione di Andy Warhol, ognuno di noi ha una diversa idea dell'amore. Una ragazza che conosco ha detto: sapevo che mi amava quando non mi veniva in bocca. Cioè a dire, quel gesto lì che non voglio ripetere per la terza volta, ma lo dico, venire in bocca, ma lo dico, non lo voglio ripetere per la quarta volta, lo dice, ma venire ma sì, bene in bocca, va bene, è un gesto, secondo Andy Warhol, che non esprime amore. Questo è il punto. Posso dirti obietto, vostro onore, obietto. Vai. Dario, Dario, dimmi. Allora, dimmi, dimmi. Allora, secondo me, quello che hai detto prima, riferito all'immigrazione del Covid, che la gente con i soldi si sposta nelle mete. Ha detto Parenzo che il virus dei ricchi, sì. Allora? Sì, è quello che avevo detto prima. Quelli che hanno viaggiato moltissimo, ma basta vedere le località dove si è verificato, cioè non. Vabbè, è una allora? Cosa comunque in Spagna, in queste cose qua. Allora, secondo me questa cosa qua è una cosa per strumentalizzarci, anche per controllare anche le masse. Cosa vuol dire controllare le masse, sì, amico mio? Chi è che vuole controllare le masse? Io ti vado dai pazzi quando uno dice controllare le masse. Controllare per mantenerci qua in, sì, chiusi nel nostro, sì, territorio. Ma tu non sei, sì, chiuso però. Lei deve essere rinchiuso. Questa è la differenza. Cioè, va bene, noi siamo rinchiusi nel nostro angolo di terra. Ma se noi volessimo uscire fuori dall'Europa, noi siamo in questa specie di dittatura. Ma tu dove cazzo vai? Sì, ma tu dove cazzo vai da fuori solo, da Mantova? Questo è il da punto solo fondamentale. Non deve andare da solo, è pericoloso se lei si muove da solo. Certo. Bisogna conoscere la geografia, che nel suo caso mi sa che non è tanto ferrato. Dove vuole andare fuori dall'Europa costui? Non lo so, Dario, vorrebbe andare fuori, ma non c'è nessuna dittatura, questo è il punto, basta con queste cazzate, non c'è nessuna dittatura mondiale, non c'è nessuno che ci vuole rinchiudere, è una cazzata. Poi io non sono allarmista, non sono allarmista, anzi, non sopporto quelli che fanno dell'allarmismo, come Parenzo, per esempio. No, io non faccio allarmismo, grande dico, esponente dell'allarmismo, grande esponente dell'allarmismo nazionale. Le regole, tu sei metto come la al solito il manut, che cazzo c'entra, metto mani, la mascherina, quello... tengo le distanze sociali quando devo tenerle. Basta con queste distanze sociali. Gli assembramenti, faccio uso le metto in pratica. Non ti trovi a letto in un albergo? Non ti trovi a letto in un albergo? Ho scaricato, ma non mi trovo a letto perché ho un'altra situazione. Ho un'altra situazione. Ho un'altra situazione sentimentale, quindi non mi trovo al momento a letto. Però perché non escludo magari tra 20 anni. Al momento, no, dico al momento non vabbè, mi trovo. Dario, quindi. Allora non ho capito, Dario. Ho scaricato l'app Immuni. Io non l'ho scaricato, non la scaricherò mai. Molto grave, molto, molto grave. Dimmi, Dario, dimmi. Allora. Allora, ragazzi, allora, qua non è che c'entra l'app Immuni, qua, esempio, se io ora vorrei entrare in un negozio e se ho soltanto una mascherina e se per sbaglio qualcun altro non ce l'ha, io in quel negozio non ci posso entrare. No. Fino al giorno prima noi potevamo essere liberi, ma noi oggi non siamo liberi. Non siamo liberi. Il problema è che tu non sei. Il problema non è che questi sono amici tuoi, Cruciani. Questa è responsabilità tua di sta gente qua. Perché? Cioè, se questi chiamano tua e di quell'altro che giace in un letto in un albergo al Plaza, non so dove, ad Abrotero. Ma il problema è questo: perché voi avete negato e il risultato è questa qui all'ennesima. Ma non ha negato niente, nessuno. Allora, nessuno ha negato una mai niente. Era una semplice influenza. Fino a 70 anni, sì, fino a 70 anni. È una semplice influenza. Allora, guardate le statistiche. Fermi tutti. Allora, in Italia, in Italia ci sono milioni di contagiati o di gente che ha preso il Covid. Se uno prende in considerazione questo numero, cioè milioni di persone, 3-4 milioni e non 280-290, tutti gli altri numeri sono più piccoli. Dunque, stiamo parlando, non dico di una cazzata, ma di una cosa che si deve. Ma in Francia, vai a guardare che non ci sono intubati. Non ci sono intubati da una vita. In Francia, e negli Stati Uniti, smettila di cagarti addosso. Perito, devi smetterla di avere paura. Devi smettere di avere paura. Ma io ho lavorato tutta l'estate. Che paura ho girato dappertutto. Fermi ho girato. Fermi là. Per me non è una banale influenza. Fermi là. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Allora, lo dico, mi è scattata l'una, devo fare un'ora prima. Se domani alle 6.35 non ricominciate, vengo a Milano, porco due, mi metto sotto la redazione, me lego, non so che faccio. Guai a voi, eh. Lo dico, a prima cosa vado a Roma, prendo Parenzo, perché tanto sto a Roma. Non vi preoccupate, eh. Dite a quell'ercio di Cruciani di ricominciare, di riaprire la baracca. Si ricomincia oggi, miserabili. Si ricomincia, Cruciani. Allora ragazzi, durante quest'estate il signor Davide Parenzo, intanto Parenzo non si fa una ragione del fatto che in un letto con un pigiama rosso, certo, in un albergo di Abano Terme, sì, ho capito, un pigiama rosso, sì, sia, beh, ci sia Gottardo steso di seta, pigiama, sì, rosso, una, di seta, tutta una marchetta con insieme, brand, tutta insieme, roba regalata, ovvio. Insieme, no, no, me la sono comprata, ma una comprata, gentile signorina, ma se sembra anche di buon gusto, cioè, quindi è possibile, molto elegante, una gentile signorina che sembra pure finalmente dire. Sì, sì, lo puoi, beh, dire, ma io voglio capire, buona, una cosa. Allora, ciao. Ma se, ci sia Maria Elena Fabi. Ho la mascherina anche, bravo, ciao. Ma non c'hai la mascherina, però. Non hai la mascherina. Allora, sì, ce l'ho, eccola qui la mascherina. Ma saranno congiunti. Togli la mascherina. No, saranno, no, congiunti. Purtroppo saranno congiunti. Ma Parenzo vuole sapere lei che cosa ci fa. Non dipende da me. Che cosa ci fa? Allora, io sono venuta qui. Sì, ma cosa ci fa nel letto con Gottardo? Allora, grazie a Parenzo, grazie a lui, perché quando ho fatto quella famosa telefonata durante il lockdown, mi disse che insomma Alberto era un uomo non proprio bello ed era, sì, anche grasso. Io ho guardato, no, su internet, so, me, sì, obiettivamente non, cioè, guardi un po' com'è, obiettivamente Alberto, cioè, invece è un bell'uomo e anche, sì, in forma, cioè, sì, per me è un uomo, ragazzi, cioè, gli uomini, però, troppo magri, no, non mi piacciono. Ma lo ripeta, allora ci siamo sentiti forte telefonicamente, io sono, sì, sono venuta a Milano, sì, per lavoro, perché sto lavorando in Rai, lavoro in Rai, sì, d'accordo, no, sì, invece io lavoro in Rai e lavoro a un programma che si chiama Una Mattina in Famiglia, quindi pagata col canone, vengo pagata col, scusate, scandalo, sì, io pago il canone perché, sì, questa stia a letto a casa con Gottardo, perché questa, no, guardi, stia a letto, no, con Gottardo, casomai arrivi a Radio 24, ma una vergogna che assoluta che io pago col, vabbè, canone, una signora, invece, che sta, io credo, a letto che le persone, con voglio Gottardo, assolutamente dire che gli uomini che non sono molto, sì, magri, ma che sono un po' ti piacciono, pienotti, i grassi, non è, ti piacciono, perché, i grassi, diciamo, no, grasso, ma dai, e quindi no alle diete, basta con questa cosa delle diete che tutti gli uomini vogliono mettere, cioè, la cosa strana, la cosa strana, sì, è che lei, vista dalla foto che mi hanno mandato nel cellulare, sì, di servizio, sì, nella, sì, chat di servizio, sì, lei, sì, sembra anche carina, sì, allora, è molto meglio dal vivo, che, no, in foto, aspetta, allora mi chiedo, le manca una gamba, che o è cieca o ha dei, no, non mi manca niente, no, io sono venuta qui a trovare Alberto, che, ma stai a letto con Gottardo, perché ti vuoi scopare Gottardo, perché te lo vuoi scopare, questo è il punto, ma non è sposato, scusa, ma cosa dite, allora purtroppo penso di, cioè, nel senso che è sposato, ha una famiglia, è semplicemente sposato, ciao, fermi tutti, ma come va a cagare? Allora, Francesco da Siena, vai Francesco, vai, dimmi. Buonasera ragazzi, bentornato a Gottardo, sei una merda, ma non c'entra niente con il discorso di stasera. Ma più o meno di Parenzo, sono più merda o meno merda di Parenzo? Sono una merda quando parli degli animali, poi, comunque ho chiamato per parlare in che senso, scusa, in che senso, non ho capito. Cioè, perché una merda quando parli degli animali? Non ho chiamato per Gottardo. Sì, ma perché una merda quando parla degli animali? Non ho chiamato per Gottardo e parla di me come ragazzo. Capito? È un merda che hanno ammazzato il ragazzo. Certamente chi ha ammazzato quel ragazzo è una merda per definizione, su questo non c'è dubbio. Dunque? È una merda e vorrei che tu dicessi che sono degli esseri inferiori. Ma non sono degli esseri inferiori, sono degli assassini, punto, dei criminali. E ciò che rappresentano, no, ciò, il modello di società che rappresentano sono degli inferiori. Modello di società, sono due criminali, punto e basta. Due che, no, che... ciò che rappresentano. Ma ciò che rappresentano. Posso pensare così o no? Ma che vuol dire? Non lo sai nemmeno dire, non cosa rappresentano. Due criminali sono. Che cosa, no, no, rappresentano? Ciò che rappresentano loro. Che cosa? L'estrema destra, che cosa? I picchiatori, no, i picchiatori, che cosa? Che cosa il rappresentano? Il settore di società che rappresentano. Non lo sai dire nemmeno tu quali sarebbero il settore di società, gente che ha, cioè, che dire, che picchia facilmente altre persone, cioè, analfabeti funzionali, va bene, analfabeti. Beh, certamente oltre, non sono dei filosofi, non c'è dubbio, non cosa sono... vogliamo fare con gli analfabeti funzionali, tu cosa faresti con questi, dimmelo, cosa faresti con, no, questi, no, con gli analfabeti funzionali, no, in generale, ma esisteranno sempre gli analfabeti funzionali, esisteranno sempre i violenti, purtroppo, e non è che possiamo non esiste la società senza violenza, è impossibile, no, vabbè, ragazzi, è così. Sì, purtroppo ci saranno sempre quelli che fanno queste robe qua. Sono dei criminali. Vanno eliminati. Dunque, pena di morte per questi qua. non servono. Per gli analfabeti. Non servono. Per gli analfabeti. No, attenzione, questo signore qua, Francesco da Siena, che si incazzava, con Gottardo perché per le sue idee sugli animali. Vanno dunque, uomini che non sanno leggere. Esatto, immagino che sia un animalista convinto, Francesco da Siena. Assolutamente no, sono solo vegetariano. Sei vegetariano. Un vegetariano vuole però la condanna a morte, l'eliminazione fisica di quei signori, esatto, che sono stati arrestati e che hanno ammazzato Willy oggi, ieri a Roma, quando era nei giorni scorsi. Non servono. Non servono, benissimo. Allora io ammazzo i lupi, perché ammazzano le vacche sull'altipiano d'Asiago. Ma per lo stesso ragionamento. Non mi provochi, che tu sei una scusami, bella merda. Saranno degli assassini anche i lupi, i giaguari per esempio. Perché non sterminiamo i giaguari che ammazzano come hanno fatto anche invece con i propri consimili quei due Roma? Ma tu, Gottardo, perché non fai un ragionamento critico sugli analfabeti funzionali? Ma che cosa vogliamo fare? Ammazzare tutti gli analfabeti funzionali? 2020, Cruciani, e ci sono ancora gli analfabeti funzionali. E che cosa facciamo? Li eliminiamo fisicamente come vuoi fare tu? Che cosa ma facciamo? Ma lo capisci o no che non servono? Ma che lascia perdere, non servono. Ma chi cazzo non lo decide? Sono utili la patria. Ma a parte che sono utili, perché se c'è un analfabeta funzionale, ci sarà anche uno alfabetizzato invece. Sì, e poi c'è la zanzara. Senza gli analfabeti funzionali, la zanzara. Anche questo è vero. Questo è vero. Dunque, servono a far esistere questa trasmissione, tra l'altro. Perché anche tu, secondo me, per quello che dici, sei un analfabeta funzionale. Cioè, sei un coglione. Sei un coglione. Perché se c'è un povero, c'è un ricco. No, non è questo. Allora, risse, palestra. Non servono. Palestra, macchine veloci, vita da bulli di quartiere, d'accordo. No, assolutamente non c'entra neanche. E allora che quale sarebbe? L'hai già detto bene, i quartieri poveri. Allora? E che facciamo? Eliminiamo i quartieri poveri? Che facciamo? Bombardiamo i quartieri poveri. Che vogliamo fare? Non ho capito. Lo stai dicendo te? Ma non lo so, hai detto che non servono, sei tu che hai detto che non servono. Sei non vegetariano, servono. Magari anche il pacifista. Gli analfabeti funzionali non servono. Vanno eliminati. Dunque, in che modo? Cioè, li eliminiamo? Questi qua sono stati arrestati. Probabilmente confesseranno, eccetera. Ci saranno prove in attacco. Vanno eliminati. Cioè, pena di morte. Come li eliminiamo? In che modo? Dimmelo. Lo facciamo come in Cina? Non lo so, come in Cina. La pena di morte, che tipo di pena di morte c'è in Cina? Non so, la siringa, che fanno? L'impiccagione, che fanno? La ghigliottina, che mangio c'è? Gli organi, puoi estrarre gli organi, poi rivenderli. Benissimo. Guardi, arrivati all'estrazione degli organi. A me viene in mente che se estraggono il cervello di questo, lo mettono in una teca con scritto Gottardo, sei solo un pagliaccio, un poveretto. Vabbè, Francesco. No, guardi che quello è Parenzo. No, beh, poveretto. Era il pagliaccio che aveva fatto il collegamento. Io mi offendo come litiga sul pagliaccio, sul poveretto. Vabbè, ciao Francesco, vai a fare il culo. Il grande mistero resta. Una giornalista della RAI, tale Maria Elena Fabi, dopo essere incappata in questa trasmissione radiofonica, e stia zitta un attimo, dopo essere incappata in questa trasmissione radiofonica, a un certo punto si trova improvvisamente braccata da Gottardo. Braccata da Gottardo, oppure al contrario, rapace su Gottardo, si trova in un letto, in un albergo ad Abano Terme nella prima puntata di questa disgraziata trasmissione. A letto mezza nuda. Non mi dite cazzate, sto vedendo foto con tette quasi di fuori, piedi orrendi, tra l'altro piedi orrendi. Ma cosa cazzo stai dicendo? Ma quando mai? Non è Sara vero. Da Treviso. È una protesi quella gamba o sono tutte due sue? Sara da Treviso, silenzio a Padova, Sara da Treviso. Un piede egizio. Pronto? Dimmi, ma Sara. È vero che... Dimmi, pronto, Sara. Ciao ragazzi. Scusami, Maria, ma ce l'hai? Come ce l'hai? Depilata oppure ce l'hai con i peli da figa? Non ho capito. Gliel'ho chiesto anch'io. I miei piedi non sono brutti. Te lo dico. Sì, ma come ce l'hai? Privato, depilata o no? Non è vero. Come ce l'hai? Sono belli i miei piedi. Come ce l'hai? Me lo dicono spesso che ho dei bellissimi piedi. Depilata come vale della facoltà di non rispondere. Non commenta. Ma giornalista della Rai che parla dei piedi, ma Sara, dimmi Sara, dimmi. Però non parla della sua. Una cosa sentita, la bellezza dei piedi. Dimmi Sara, dimmi. Anch'io fatalità volevo parlare di peli, ma non sulla figa, sul cazzo, ecco. Grande tema. Anche così troppo affrontato, nel senso, è una battaglia che vorrei portare avanti in maniera più approfondita. E portiamola avanti con grande piacere. Allora, io sono una sostenitrice del cazzo peloso. Ma sei sicura amica da Treviso? Perché poi non è che ti finisce in gola qualche pelo ogni mai in gola il pelo. Però scusami Sara, tu mi stai dicendo che non sopporti il pisello glabro, questo è il punto. Non mi piace, non è... non è così, ma sembra più lungo, vedere, ma sembra più lungo quando lo depili. Sì, beh, quello però dipende se ti serve che sembri più lungo o no. Sì, ha ragione Sara su questo. Sono della l'autobiografia di Gottardo. Anche perché guadagni da un centimetro, un centimetro e mezzo. No, ma ha ragione Sara, io sono della squadra di Sara, sono del Sara Steam. Sara Steam. A meno che non abbia problemi di irsutismo super pedo, folto, fitto, lungo, e vabbè, allora li posso capire, non parliamo di casi limite. Però la volta che mi è capitato di vederne uno completamente glabro, a parte che così di primo acchito non ho capito cosa ci fosse che non andava, cioè c'era qualcosa di diverso. Poi ho visto quella pieghezza di pelle che c'è dove lo scroto si attacca alla coscia. Sì, giusto. Non ho la guancia. No, ha ragione Sara. Cioè, allora diciamo la verità, Sara, però bisogna vedere anche. Però domanda per Sara, scusami Giuseppe, sì, domanda sì. Per Sara. Lei quella volta poi lo ha scopato lo stesso oppure l'ha mandato a casa senza cena? Era venuto dalla allora, posta per e allora sì. Quindi, cosa vuol dire? Ma certo, ma perché se tu te ne trovi una depilata cosa fai? Lascerà? Ha ragione Sara, no, su questo non si butta mai via ti niente. Ha messo al muro, ti ha messo al muro. E del maiale e della maiala non si butta mai via niente. Allora, il punto fondamentale, Sara dice questo. Sara dice, io sono d'accordo con lei, però dipende dai corpi degli uomini. Cioè, se il corpo dell'uomo non produce quella fossetta che dici tu, dallo scroto, diciamo, è linguine. A meno che lo scroto proprio non sia attaccato, tipo quello di neonato. Cioè, a te non piace per questo, perché il pelo copre quella sembra quelle... un po' tipo la una candela sciolta, mi va quell'idea lì. Cioè il corpo glabro dell'uomo, mamma soprattutto mia. Nelle parti intime. No, ma è un tema molto interessante. Bisogna scegliere. Il petto glabro è una cosa che io apprezzo molto, per esempio. Però sulle Sara, parti intime. Sara, se io le parlassi, se io le parlassi di quella volta che ho visto Cruciani nudo, per esempio, cosa le interesserebbe? Purtroppo sì, perché mi è capitato di vederlo. Mi è capitato di vederlo. Devo dire che Cruciani non è depilato. Ok, ma immaginavo. No, adesso e questo un però, uccello adesso. Particolarmente grosso. No, adesso questo però sono molto contenta per lui. Adesso voglio dire, mi è capitato una volta di essere di fronte a Gottardo nudo e sta rivelando delle cose assurde, è una cosa pazzesca. Ciao Sara, ciao. Faccio pubblicamente i complimenti a Cruciani. Daniela Martani con noi, buonasera, un'altra squinternata. Andiamo avanti. Senti, allora Parenzo, iniziamo subito. Iniziamo. Come devi dare del lei, sì. Prima cosa. Buonasera, signora del lei. Giusto. Tu la devi smettere di offendere le donne, perché non credo che tu a tua moglie gli dici squinternata. Non mi parli. Ma non c'entra le uomini o le donne, sei una squinternata. Non mi parli, porti rispetto. Ma sei una povera squinternata. Ma che c'entrano gli uomini? Ma che alle donne? A te! Te sei una buona squinternata! Fermi un attimo, che c'entra? Non se lava, vive con gli animali. Ma che non se lava? Che cazzo dici? Dice lei che vive con gli animali abbracciata, dai, una squinternata, dai. Allora io voglio dire. Una gattara. Ma che c'entra la gattara che c'hai i cani? Ma è una gattara! Ma c'hai i cani, che c'entra la gattara? C'hai i cani? È una povera gattara. Allora ragazzi, però c'è un elemento fondamentale. Parenzo per tutta l'estate ha sostenuto una cosa, che andrebbero vaccinati obbligatoriamente. Anti-influenzale, però vaccino anti-influenzale. Naturalmente vaccino contro l'influenza. Tutti quelli che vanno a scuola. Tutti cioè, bambini dagli insegnanti, personale amministrativo. Questo per evitare, perché quando ci sarà l'ondata dell'influenza, se i bambini e gli insegnanti sono vaccinati, ma la prendi lo stesso l'influenza, no, anche col vaccino. Almeno in forma più lieve. Esatto. Almeno tu sei pericoloso, sai. Aspetta. Perché sei pericoloso? Perché tu ti sei permesso di dire in una TV nazionale, che la gente si deve vaccinare per forza. Ma come ti permetti? Obbligatorio, allora, dovrebbe essere, ma non lo faranno purtroppo. Ma tu non puoi pretendere il che vaiolo, tutti quanti si vaccino. Il vaccino contro il vaiolo era obbligatorio, squinternata. Ma ad una squinternata. Quando lo Stato funzionava, se questa è una pandemia ed è un'emergenza, si rende però obbligatorio ragione, il vaccino. Il vaccino influenzale cambia, muta ogni anno. Ma che muta il tuo cervello, rotto, muta. Sei un ti sei informato? Non te non ti dovrebbero far parlare certo che muta regione. Il vaccino influenzale, muta, no, però, certo, ogni anno lo ne fanno, attenzione, col cepo nuovo, ovvio. Allora, no? Aspetta un attimo, fermi là. Allora, Daniela dice che tu non dovresti parlare in una televisione nazionale perché vuoi imporre il vaccino, no, no, a tutti. No, imposto niente, io ho detto una mia opinione. Come ti sei permesso? Ti avrebbero dovuto cacciare facessi il politico, facessi il politico, io ho detto ai politici che sono venuti, dovreste prendere il coraggio a quattro mani e fare una cosa che è apparentemente impopolare e obbligare le persone che vanno a scuola, i bambini e gli insegnanti, a vaccinarsi contro l'influenza. E per la Martani è una cosa criminale questa qua, è una cosa... Ma il tuo cane lo vaccini o no? Non... Il no, tuo non cane vaccino, non lo vaccini neppure il contro la rabbia, no. Lo vaccini o no? E allora no, fai schifo due volte, no, perché è inutile, non serve a niente, capisci? Non vaccini neppure il cane tu. Ma ti devono togliere, no, la cittadinanza a te, altro che no. Dimmi, lo vaccini il cane sì o no? La vaccinazione influenzale, il se la vuoi, cane, la lo vaccini o no il cane? Sanitaria, ma tieni conto, ma qua, rispondi alla mia domanda, il cane libertà, lo vaccini o no? Capisci? Ma quale no, libertà? No, non lo vaccino il cane, non lo vaccino il cane. Capisci? Non lo vaccino. Allora, fermi tutti. Voglio capire una cosa. Davide, tu i tuoi figli li fai il vaccino tutti antinfluenzale? Ma certo, assolutamente. Ma poveri figli. Tranne questi dovrebbero essere tolti dalle tue mani. Tranne perché tu sei pericoloso. Questo, cioè, secondo te bisogna togliere la patria potestà a Parenzo. Non ho capito. Scusami. Ma... Assolutamente sì. A dei bambini sì, piccolissimi gli fai il vaccino antinfluenzale? No, aspetta. A quella di un mese, a quella di un mese ovviamente no, perché le prime vaccinazioni si possono fare a ottobre. Quindi non posso vaccinarla. Sì. I piccoli sì, però. I piccoli che... Una ne ha 13, un altro ne ha... Ed è più alta di Parenzo. Sì, questo è vero. Una ne ha 13, un ma altro ne ha 6 Crociani, e uno 5. Ma non abbiamo neanche più il diritto di ammalarci. Cioè, ti rendi tu conto, hai il diritto di andare a fare ammalarci il culo e voi di vaccinare almeno il tuo cane squinternata che non sei altro. Voi aspirate all'immortalità e siete dei pazzi, perché noi esseri umani... Ma perché resero obbligatorio il vaccino contro il vaiolo, scusa? Ma in passato perché resero... In passato perché resero obbligatorio il vaccino contro il vaiolo? Allora, fermi tutti, andiamo per ordine, ragazzi, perché? Andiamo per ordine. Abbiamo capito, secondo la Martani bisogna togliere i figli a Parenzo, addirittura perché la patria potestà, perché ma vuoi perché obbligare i tuoi figli, obbligare i tuoi figli a prendere il vaccino contro il vaiolo? Bambini piccoli che comunque si ammalano, tutti noi abbiamo preso l'influenza, Crociani, e chi la varicella l'abbiamo presa tutti, ma che ma io non lo faccio, ma io non lo faccio, io non lo faccio il vaccino antinfluenzale, infatti me ne fotto, io non lo faccio, chi ma se ne frega. Voglio sapere una cosa, per esempio il vaccino coronavirus, dicono che ci vogliono anni e anni per sperimentarlo, sì, adesso lo vogliono immettere nell'arco di un anno e mezzo, ok? Sì. La responsabilità le case produttrici non se la prendono, capisci? Ma allora, se la prende l'AI, ma che dici? E allora una domanda, ma chi c'è dietro? Chi c'è dietro? Chi c'è dietro? Soros, Rockefeller, chi c'è? Chi c'è? Nuovo ordine mondiale, chi c'è dietro? Non lo so, qualcosa c'è, perché chiaramente queste case farmaceutiche adesso stanno guadagnando miliardi. Ma che miliardi? Stanno facendo il vaccino, lo Stato li compra, il 50% ce lo mette l'azienda se poi non va bene. Allora adesso ci sono una marea di asintomatici, quindi che non hanno assolutamente nulla. Tu spiegami per quale motivo non si dovrebbe fare. Ma tu sei asintomatica, sei squinternata. Non è che sei asintomatica, ancora? Sei semplicemente... Allora, aspetta un attimo, io voglio capire una cosa. Ma Daniela ha girato quest'estate, perché c'è stato un caso Martani, sapete, ne hanno parlato sì, i social, sì, eccetera. E ha girato in lungo e in largo la Costa Smeralda e non si è sì, presa un cazzo. No. Come mai non ti sei preso un cazzo? Letteralmente? No, quelli di solito non li prende. Quelli di solito purtroppo non li prende. Purtroppo quindi non li ha preso prende un cazzo in tutti i sensi. Purtroppo non li prende. Anche in quel senso, caro Gottardo. Ma si domandi sì, perché? Si domandi perché Martani, ma lei era da sola, me, caro mio, sia all'andata che al ritorno. C'ha la fila, questa è vera. C'ha alla fila dove? Alla fila, della alla fila di vuole uomini. Menare, alla fila della di gente che la vuole picchiare, probabilmente. Alla fila, però, non dà. No, fermi tutti, mi segnalano, David, c'è Gottardo in albergo del marito di mia sorella, mi hanno detto. Vabbè, questo è hanno scritto adesso. Ma no, no, no, scusate, breaking news. Si può mettere la sigla quella che c'era una volta del breaking news? Ma come che ci frega? Questo mio carissimo amico imprenditore padovano che sì, mi dice, sì, David, ti segnalo che Jacopo, c'è Gottardo. Jacopo. Non volevo dire il nome. In albergo sì, del marito di mia sorella. Tu segui pedissequamente tutte le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale sì, della sì, Sanità. Sì, sì, sì, sì, tutto, okay, tutto, continui a mangiare carne, che ha detto che è cancerogena. Beh, non hanno detto proprio così. Cosa? Sì, detto così, ha detto che è un rischio, eccetera. Che non è un rischio, io così mangio poca carne rossa in genere. Gli insaccati, tutte le carni processate sono... Però torniamo a una cosa. L'altra sera ho mangiato... Perché voglio capire se le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità valgono soltanto per il coronavirus, per tutto il resto assolutamente no. Fatemi capire, no? allora, Parenzo mangia solo insaccate d'oca, non mangia l'insaccato di maiale. E questo fa molto bene. L'insaccato è sempre carne lavorata. Fermi tutti. Allora, secondo la Martani, che ha partecipato alla manifestazione di sabato, c'è terrorismo mediatico. Sì, ha partecipato alla manifestazione di sabato. No maschera, non porta la mascherina quasi mai. Ero lì senza mascherina. Non porta. Non porta. Ti avrebbero dovuto multare. Ti dovrebbero multare. Molto semplice. No, dovrebbero metterti la museruola. Per quale motivo? Scusa, mi dico obbligatorio all'aperto la mascherina. Che stai dicendo? Beh, c'è un assembramento, sì. Quando c'è un assembramento, certo che è obbligatoria. Non c'era assembramento, stavamo distanziati. Ma che c'erano quattro disperati attaccati, li abbiamo visti tutti da multare. Quattro disperati, questo è soltanto l'inizio, caro mio, perché in tutto il mondo stanno cominciando a protestare a milioni. Hai capito? La grande rivoluzione. Caro Valenzo, ma tu lo sai quanta gente è rimasta senza lavoro e non potrà più passare, sta chiudendo le aziende? Questo? Lo sai sì o no? Lo sai che ma cosa c'entra questo? Alle Baleari stanno chiudendo. Ma cosa c'entra questo col virus? C'entra, cosa c'entra, c'entra con la mascherina? Ma chi se ne frega del virus quando c'è gente che morirà di fame? Saranno molti di più, capisci? Lo capite? Questo sì o no? Però la pensi come Vissani su questo? La pensi come Vissani su informazioni terroristiche, bisogna rassicurare le persone, non terrorizzarle continuamente ogni giorno, capito? Con questi numeri che non esistono più. Non esistono più. Non c'è il virus, non c'è. No, non dico che non c'è. Ma non ha più la potenza, chimicamente morto. Allora, su questo, fermi tutti, su questo però Daniele è d'accordo con Vissani. Vissani oggi vuole denunciare il governo Conte perché dice che ha messo nei guai un sacco di imprenditori, un sacco di aziende per la cassa integrazione, eccetera. Dunque c'è un incontro tra Vissani e Martani contro il governo, cioè contro il terrorismo mediatico del governo, no? Mi sembra di capire. Ma scusami, perché questi parlano così? Perché hanno il culo parato, perché hanno il lavoro, perché se questi fossero stati licenziati dalle loro aziende, ma perché non hanno più soldi, capito? E chiudono. Voglio vedere se non veniva la manifestazione. Ma tu non ho capito, tu te ne fotti, capisci? Non metti mai la mascherina praticamente, cioè non la metti quasi mai. Io non la metto quasi mai, ma fra l'altro, scusami, la mascherina, no? Allora, cioè, quando ha iniziato tutto quanto, dicevano che non bisognava manco toccarla col mignolo. Questa cosa di metterla su, giù, metterla sulla mano, nella borsa, nella tasca. Ma come cazzo hai fatto a non prenderti? Sei una delle poche che ha girato un sacco di feste in Costa Smeralda e non ti sei preso, preso un cazzo. Ma solo perché sono vegana, perché sono vegana, perché io ho un sistema immunitario fortissimo. Guarda che l'alimentazione è fondamentale. Oggi hanno catturato l'orso, bella notizia, hanno catturato l'orso in Trentino. M49. Ma come fu malato di mente Fugatti? Fugatti è un malato di mente, è fissato con gli orsi, ok? Ma è pericoloso, l'hanno catturato, è pericoloso questo orso. Lui prende i voti dai cacciatori e degli allevatori, ha dovuto soddisfare le richieste degli allevatori e dei cacciatori. Ma non li piglia dalla mafia, non li piglia dalla mafia. Vuole catturare tutti gli orsi del Trentino e metterli dentro il recinto. Ma non prende voti dalla mafia, allevatori è un pazzo, allevatori e cacciatori non sono dei criminali, non sono dei mafiosi. Sono dei criminali nel momento in cui chiedono di distruggere gli animali, di distruggere l'ambiente in cui vivono. Ma meno male che hanno catturato Storzo, così non ci rompe più i coglioni con sta storia qua. Ma sono sei coglioni, scusami. Ma Storzo deve vivere. Ma deve vivere dove decidiamo noi. Dove decidiamo noi deve vivere questo. L'orso è stato portato là, hai capito? Perché il Trentino ha preso miliardi. Ma a te piace l'uomo? A te piace l'uomo depilato o no? Non ho capito. L'uomo depilato ti piace o no? Ma che cazzo, non mi fai queste domande, io sai che non rispondo a queste cose. Non si ricorda più. Più che altro non ti ricordi più come è fatto un uomo, Martani? No, vive non me ne frega niente. Io vive vado, con io gli animali, per forza. Non vado con gli uomini così per scopare, non mi interessa. La pace dei sensi. Sta gattara. Sta gattara. Fermi tutti, ciao Daniele, ti abbraccio, ciao. Ciao, ciao. La zanzara. Dove una volta c'era Radio Cuore, le grandi emozioni della musica italiana, a Milano si sentiva Radio Cuore, grandi mood della musica italiana, su 92 qua. Adesso vi mettete lì e dice sentiamo che emozione la musica italiana, si sente? Brutto bastardo, tu sei un bastardo, a te nelle vene ti scorre il veleno, ti scorre. Oh madonna, chi caccia i soldi? Chi caccia i soldi? Siete delle merde, basta, fanno bene togliervi i soldi, devono togliervi i soldi, parassiti del cazzo che non avete voglia di far niente, vivete alle spalle del popolo a dire delle cazzate solo per il vostro interesse e basta, andate a cagare, va. Allora io accendo la mia radio preferita, l'unica radio che io posso sentire. Hey! Radio 24. Radio 24. Grandi! Allora, premetto che la Martani è veramente una gran figa e che ha dei piedi che siamo al top, veramente leccabili fino al consumo delle papille gustative. Io sono vegano come lei e non è affatto vero che noi vegani, perlomeno maschi, abbiamo meno intenti nel vedere YouPorn, Pornhub e tutte queste cose. Io me lo vedo a manetta, a loop, insieme alla zanzara ovviamente. Fermi tutti, annuncio Urbi e Torbi, aspettate. Da 5 minuti sto là, calcola che mi sto a far ascoltare dai guardie. Mo sto a fare il video, mo te lo faccio vedere, sto arrivando. Guardie. Ma chi è, il Brasile? Il signor Brasile a Milano. Signor Brasile a Milano. Ma non puoi farlo entrare lì, però. Perché non lo posso far entrare? Non lo credo. È già entrato più volte qua. Ma cioè, no, capito. Nel rispetto delle norme, purtroppo. Ma nel rispetto nel rispetto della nostra. Ma è già entrato qui, è già entrato più volte. Confindustria, cioè non mi sembra. Allora, il caso. Quest'estate abbiamo visto un sacco di cose, visto e sentito un sacco di cose soprattutto. E una delle cose che abbiamo sentito è un signore che è un ex politico dei 5 Stelle di Roma che si chiama Quaresima, il quale sostiene che i vaccini possono essere la causa, a proposito dei vaccini, della crescita degli omosessuali. 5 Stelle, la giusto? Crescita degli omosessuali. Tu perché hai Five votato stars. Alle ultime elezioni? Perché nel 2013 votai per i 5 Stelle, è vero. È colpa tua. No, non è colpa mia. Non è tu colpa hai... mia. Perché hai non votato? È colpa mia. Perché hai votato? Se non ci fossero stati i 5 Stelle, avremmo fatto una zanzara meno zanzara. Diciamo la verità, senza i 5 Stelle, senza questa follia, senza questi personaggi entrati nella politica, che cazzo di trasmissione avremmo fatto? Non tanto ci sarebbe peggio, stato. Tanto meglio. Ma certo, ma che ce ne fotte a noi? Ma che come? Ma tu il paese. Sei. Ma tu pensi ma alla il responsabilità. Paese. Il paese. Tu eccolo sei una persona là. Responsabile, che si dice responsabile. Eccolo là, che lo vedo nel monitor di servizio. Chi c'è? Chi è arrivato? Sì, adesso arriva, si prepara. Vedo con calma. Nel monitor di servizio. Con calma. Fammi sentire questo qua. Con la sua consueta classe ed eleganza. Oggigiorno io ho parlato con molti biologi, c'è un incremento esponenziale dell'omosessualità a partire anche da persone molto giovani, da bambini, da bambini insomma, ecco, adolescenti. E questo è stato spiegato almeno da questi biologi che potrebbe essere anche la vaccinazione. Attenzione, questo signore sostiene che la vaccinazione porta alla crescita degli omosessuali. Mamma mia. Cioè i froci, i gay sono aumentati a causa dei vaccini. Pazzesco. Capito? Pazzesco. Ragazzi, dai, pazzesco. Su, ma di che stiamo a parlare? Dai, su. Con calma, Sebastiano da Milano, vai, Sebastiano. Ah, Sebastiano Barisoni, bene. No, non è Sebastiano Barisoni. Lasciamo preparare il signor Brasile che è appena entrato. Ma che appena entrato. È venuto a portare tutti la... belli Ciao. E brutti, pure i froci che si vaccinano. Cioè, pure i froci che si vaccinano. Ma è un altro, un'altra questione. Ma è venuto a Milano a portare la criminalità. Ma che rapporto hai tu con i froci, per esempio, con gli omosessuali? Sono tutti bravi ragazzi, il culo è di loro e ci fanno quello che gli pare, Giuseppe, lo sai, no, come penso io. Sì, no, ma con gli omosessuali in generale, che rapporto hai con l'omosessualità? Niente, nulla di che. Ognuno con il proprio culo ci fa quello che vuole. Ma cosa vuol dire? Dunque sei aperto, democratico. Io sono aperto ma chiuso nello stesso tempo. Come no? Molto, molto. Sì, aperto ma chiuso nello stesso tempo. Cioè il tuo culo è ben tappato. C'hai il cielo, fanno, sai quella carta che con i scoppietti? Cioè tu l'idea di farti inchiappettare non la prendi in considerazione nemmeno lontanamente. Minimamente in modo più assoluto, mai. Mai. Dai, Brasile lo potrei dare forse. Forse lo potrei dare in una situazione non so come, forse lo potrei dare, ma nemmeno senso? Quello. Non ho capito. Adesso ci stai facendo bisessuale? No, forse in un'altra vita, dai, in un'altra vita. La molto... bisessualità, allora, bisogna dire una cosa, ragazzi. Okay. La bisessualità è la condizione migliore, se ci pensate bene. Dici, Giuseppe? Ma sì, ragazzi, sì, adesso non sto dicendo. Ad esempio, facci un esempio. No, la bisessualità per me. Ma perché tu l'avessi mai avuto? Sabato sera diceva Woody Allen. Senti Gottardo. Woody Allen diceva che hai il doppio di probabilità di scoprire se sei bisessuale. Ha ragione. Cioè hai il doppio delle possibilità se sei bisessuale. Ragazzi, è molto meglio, inutile che capita Giuseppe. Io sono vecchia maniera, amico mio. Ho capito, però Brasi, cioè, nel senso che diciamo la verità, dal punto di vista statistico è più facile. Ok, andiamo a culo pure l'uomo, che te lo diamo. Ma cosa dici? Sì, ma sta buono papà adesso, come sciare un percasso, te lo dico subito. Dai, sta buono papà adesso. Ma cosa sei venuto a fare a Milano? Se ti prendo a Prati io poi ti faccio vedere quello che cosa vuol dire la bisessualità. Ma perché sei ti rompo l'ano a te papà adesso, sei buono, dai. Ma a portare la criminalità a Milano? Stai buono, sono venuto con una tuta che costa 700 euro papà adesso. E come l'hai pagata? Stai buono, con impicci, no, sai io ormai. Ma quale scherzo, lavoro, sono un lavoratore, pago le tasse, amico mio. Impicci. Io c'ho l'IVA, c'ho l'IVA, Ivan c'ho Drago, c'ho. Ma c'ho Ivan Drago. Cioè, ma scusami, là, Brasile, ma qual è la riga della F24? Ferma, aspetta, mamma mia, io sono a ponete sempre. Calma, calma, c'è tempo, sta qua, c'è tempo, sta qua. Dai, su. Sebastiano stavo sentendo, dai. Barisone, buonasera direttore, grazie dimmi, per essere Sebastiano, intervenuto. Dimmi, Sebastiano, dimmi, dimmi. Eccoci, dimmi. Posso? Perché, non tiri, direttore, perché tiri su col naso? Hai ricominciato? Wow, è buono che sono raffreddato. Che ne so? C'è stata l'umidità a Milano. Dai, no. Che ne so? Sentivo che facevi così, sai, dati i tuoi trascorsi. No, ci stanno trascorsi, fratelli, te preoccupa. Che ne so? Cazzo, l'umidità a Milano. Ma non c'è umidità, non c'è nessuno. È umido fragico. Sebastiano, tira su continuamente. Sebastiano, dimmi. La rinite colombiana. Sì, la rinite acuta. Dimmi, Sebastiano, dimmi. No, io volevo soltanto dire se questa ragazza qui, sta Sara, che adesso è intervenuta per i diritti provax, non provax, se fra qualche anno sarà ancora a battagliare sui diritti delle donne, visto che parlava che gli piace, che non gli piace, se l'ha rasato o non rasato. Vorrei magari tra qualche anno rivederla magari su qualche Sara da Treviso, questa Sara da Treviso, che cosa ha detto? Ha detto che vuole l'uomo con i peli. A me non mi sembra di ricordare. No, forse. No, ma io non sto contraddicendo i suoi non gusti, vuole, diciamo così. A lei non piace l'uomo glabro, per esempio, il Brasile glabro. Però se sì, diciamo così, se volesse difendere i diritti delle donne, ma non vuole difendere i diritti delle donne, esatto, però no, io infatti la mia era una provocazione, magari la vedremo fra qualche anno in qualche trasmissione che sarà lì con magari con il Me Too. Ecco, solo quello. Ma perché? Era il discorso. Ma perché non se ne fotte di questa cosa dei diritti delle donne, il femminismo? Ma se ne fotte, così, sì, semplicemente no, ma sui Novax. No, ma che c'entra i Novax? Ragazza... Ha semplicemente detto una cosa, che a lei l'uomo glabro non piace, piace l'uomo con un po' di peli. E sinceramente io sono d'accordo con lei, non capisco il Brasile per esempio perché si è depilato tutto per far ma io che... ho pure l'ano depilato, ti dico la verità. Come? L'ano depilato sette cose. Non ho capito. C'ho l'ano depilato che comunque l'ano. Ma no, se trovi qualcuno che te lecca l'ano è molto piacevole. Ma che vuol mettere che se trova i filetti in bocca dei peli del culo e quando li lecca con disinvoltura? Ma perché uno dovrebbe fare una porcheria simile a un criminale? Ma non riesco a capire. Guardate che lecca 20 di palle, mamma mia, tutte glabre, tutte le palle glabre. Scusa, che palle glabre. Scusami, questo è fondamentale. Cioè, tu ti sei depilato pure il culo? Il culo, certo, quello è fondamentale. Mamma il culo depilato. Ma perché non leggi un libro? Ma il libro te lo faccio leggere a te, come quello d'ortopedia te faccio leggere, sta buono. Attenzione, Brasile, perché si inizia così. Si inizia così. No, c'è sta buono. C'è Gottardo. Il vecchio adagio che dice: chi pulisce casa aspetta ospiti. Caga cazzo, quindi io pure, stasera sta avvelenato. Sta buono. Allora, io volevo dire: molto bella questa, chi pulisce casa aspetta ospiti, è veramente molto bella. E quindi il Brasile si sta preparando. No, me. io me la faccio pulire casa, però mi depilo l'ano e anche le palline. Però io voglio dire al Brasile una cosa. Allora, lei per chi voterà il referendum del 21? Che faccio io da 84 che voto. Ma perché ci stanno le votazioni? Hanno tolto il diritto di voto. Ma sta buono, hanno tolto il passaporto. Ho tolto i diritti civili. Ma che mi hanno tolto i diritti civili? Manca il matrimonio, mi ha invitato a brutta carogna. Ma non c'è stato. Ma non ci sarà. Non ci sarà mai. Non ti sei sposato. Fino a quando c'è stata la mia idea è questa, ti giuro. La mia idea è questa. Quando sarà fissato il matrimonio, mi metto d'accordo con la ditta che organizza il ricevimento e faccio, ti giuro, ingaggiare il Brasile, che si deve essere tutto preciso, vestito da cameriere, che con quell'altro però per dargli una torta in faccia, che si presenta davanti ai suoi parenti tutto tatuato in faccia, i parenti di parenti tutto tatuato, con il papa che canta, con il papa che gli fa serenata. Allora, signora, che cosa Papa voterà il referendum lei? Ma io, guardi, dottor sì, Giuseppe, ma chi voto Giuseppe? Ma io non voto niente. Cioè, sì o no alla riduzione dei parlamentari? Sì o no alla riduzione? Cioè, i parlamentari devono essere ridotti. Ma che cazzo siamo accurati i parlamentari? Ma come? Ma questo è il senso comune dell'italiano. Ma lascia, la gente non gliene frega. Sì, bravo. Sti cazzi anche questi. Ma come sti cazzi? È il senso comune. Ma è una riforma costituzionale che deve essere approvata con referendum confermativo. Ma vota a te, Papa Renzo. Tu esci dalla tua casetta splendida dei Prati e vai a votare. Ma che cazzo? Io voterò no, ad esempio. Voti io no, voterò se tu voti no, io voto sì. Pensate, allora guarda, vado a votare sì. Guarda, papare. Scusi, altra domanda importante. Per lei esiste il Covid? Il Covid, ti dico la verità, caro Giuseppe. Il Covid per me non esiste, Giuseppe, ti dico la verità. È un'invenzione, dicono, di chi dice delle case farmaceutiche. Ma per me è tutta una cazzata, Giuseppe. Perché se non l'hai preso te. Ma se l'ho preso io te ho detto che mi bevevo l'acqua delle pozzanghere, quindi sì, voglio dire. Sì, è impossibile, no, che tu la possa prendere. No. Impossibile. Io sono immune a tutto, Giuseppe. Questo è vero. Tu non usi mascherina, naturalmente. La mascherina ce l'ho Defendi, ti dico la verità. C'ho la mascherina Defendi perché fa figura. E dove l'hai rubata? Ma sono comprata, amico mio. Ultimamente le cose stanno andando piuttosto bene, caro Papa Renzo. E allora, cosa fai? Di che cosa ti occupi? Io faccio le sponsorizzazioni su Instagram, amico mio. Certo, amico mio. Ci sono persone che ti pagano. Persone che mi pagano anche piuttosto bene. Pagano un ex criminale. Fammi capire il mondo nel quale viviamo. Pagano un ex criminale completamente tatuato delle aziende per promuovere dei prodotti. Ti posso dire la mia giornata di Milano. Sono arrivato, siamo stati 7 ore al Bulgari Hotel. Tu non manco sai indossare il Bulgari Hotel. Ci sono stato 7 ore. Avevo la mia sala. Il Bulgari ha preso belli sordarelli. Abbiamo speso 300 euro da bere, caro Papa Renzo. Perciò avevo la mia stanzetta fumatori. Ma perché il Bulgari Hotel deve avere come Ambassador. È il Ambassador, il brasiliano, è arrivato tutto griffato, tutto brillantinato. Scusate ragazzi, però io dico una cosa: tu dovresti essere contento, caro Parenzo, signore dichiaratamente, perché diciamo la verità, questo signore io lo amo perché dichiaratamente non è uno che ha detto criminale. Sabbono, c'ho tutte caccola, Giuseppe, dai. Allora, dunque, un signore ex criminale, il quale ha fatto uso di cocaina a lungo, in galera, eccetera. Sono felice, a fare delle cose positive. Io di questo sono felicissimo. Guadagna non rubando, ma non minacciando, non facendo estorsioni. Non minacciando, no, però scherzo. Sto scherzando. No, ma è un simbolo positivo. Ne abbiamo parlato anche con Luigi Manconi, l'associazione a buon diritto. Lei lo conosce, Manconi? Mi manca il signor Manconi, mi manca. Chi è? Signor Manconi mi manca. Come chi è? È stato un deputato, leader. Vabbè, ma ti ha parlato bene, spero. Apposta mi rischiava in orecchie. Ha combattuto per i diritti civili dei detenuti, Quindi di che ti ha parlato? Dimmi, papà. Di tuo padre che è stato in galera. Innocente. 10 anni innocenti è stato un caso in Italia, è uscito su tutti i giornali. Fermi tutti. Dai, Papa Renzo. Allora, te sei un demente del cazzo. Ada fa pubblicità quel demente e quel Brasiles. Vattene via, Satana. Dimmi come ti chiami. Parli sempre di mafia, da 38 d'osta. Mentre te stavi a casa sparavo col Brasilia. So 10 anni, stai provando a fare canzoni. 10 anni fa col Brasilia a fare estorsioni. Io sono la strada, io sono Roma. Io sono il brasiliano, quello che non perdona. Da Pietralata fino al quartiere africano. Sonna più a pappa, ti faccio cagare in mano. Sono parole demoniache. La zanzara. Dolce che non saprà morir, il giuramento che mai diventerà. Snoda la spada quando tu la vuoi. Gagliardetti al vento, tutti verremo a te. Nonna 92enne, siamo al top. Z Luciani, secondo me tua madre ha donato il tuo cervello quando sei nato. L'ha donato per farci un, non lo so io cosa, un pollo probabilmente. Adesso è la testa vuota. Coglione che non sei altro. Eccezionalmente a Milano il signor brasiliano. Non essere gelosa se da Gruciani voglio annà. Non essere gelosa se a Parenzo voglio menà. Ma che dici? Ma tanto io ogni volta che vengo a Milano, perché non ci stai mai? Ma perché io sono di base a Roma, fratello caro. Sei di base a Roma? Sì, allora vengo a fare cascia a Prati, in quel di Prati. Allora, il collegamento invece del fatto che quel bruto, sì, sia distante al Bulgari Hotel di Milano, cioè mi sembra una cosa incredibile. Allora quest'altra settimana abbiamo preso una stanza per due giorni, caro Papa Renzo, perciò mi vedranno con il Lamborghini e il brasiliano. No, non sto scherzando, perciò rubata, ma quale rubata, Papa Renzo? Forse non hai capito che siamo. Allora, che siamo... fine faresti fare tu, caro brasiliano, a quei ragazzi, quei criminali che hanno ammazzato Willy a Roma, eccetera? Che fine faresti fare? Allora, ascoltami bene. Allora, ascoltami bene, perché su Instagram io non posso dire quello che pensavo in questa sede. Lo posso dire, praticamente io sono stato un bandito, un criminale per tutta la vita non ho mai fatto una cosa del genere, perché quelle sono cose indegne, nel senso, a parte il bullismo, a parte il branco è sinonimo di debolezza, voglio dirlo a tutti i ragazzi che ci stanno seguendo, chi mena ad una persona in due, in tre, in quattro, in più di una persona, come in più di uno, in generale, ma in generale. No, lascia perdere uno a uno, ti posso ammazzare quanto te pare. In più di due. Va messo alla gogna. Va fatto quello che gli ha fatto a quel ragazzo. Papà. Ma che faresti tu a questi qua? Io, se fossi il padre di questi, di quello Willy, che farei? Dai, lo sai. O faresti gli spari il petto. Gli spari il petto. Proprio così. Ma in mezzo a tutti, però. Perché lui deve fare la fine di mio figlio. Stai buono, papà. Ma dov'è lo stato di diritto? Ma tu ce l'hai. Ma quale stato di diritto? Ma qui la legge se la famo da sola, Papa Renzo, ma tu ce l'hai figlio, ma lascia perdere che tu sei il soggetto e vai dai guardi, lascia perdere questo, ma quale guardi, lascia perdere che tu sei, ma quale giustizia, in questi casi la giustizia fai da te, homo homini, ma quale homo su lupus, ma state se lupus giocava con l'ancona, stai buono, state zitto, lo stato di diritto, l'Hobbes è il regista, ma quale diritto, state zitto, il Leviatano, ma quale Leviatano, lo pia a mano, lo pia Leviatano, tu mi devi ascoltare. A me. È un filosofo. Ma quale filosofo? Oliadano, ce l'ho a mano. Allora, torniamo però alle cose. Papa Renzo, La soluzione, del brasiliano legge è... fai da te. Questi sono persone indegne, vanno uccise, dai padri di questi ragazzi. Gli devi sparare in petto a sti indegni, capito? Perché 5 contro 1, un ragazzo che pesava 20 kg non si può fare, capito che ti voglio dire? Ma in generale non si può fare, no? Perché pesa. Cioè, io trovo quando ho visto il ritratto di questi signori qua che sono colpevoli di questo omicidio, di questo ragazzo. Pensate a me. Un po' ho pensato a te. Ma che stai a dire? Ma io non ho mai fatto una risse, palestra, ma tu sei un pazzo, combattimento, macchine veloci. E che faccio? Io meno in 5 a 1 lo anniento. Dunque la differenza è questa, dici tu non hai mai fatto. Mai, ma il criminale vero non fa queste. Questi sono ragazzini che hanno il parrucchino da criminale e vogliono fare Gomorra, romanzo criminale, Suburra e quant'altro. Ma un criminale vero non farebbe mai una cosa indegna del genere. Cioè, i criminali veri, ma stiamo scherzando, sei stato tu mai? Ma stiamo scherzando, Giuseppe, c'ho la pelle d'oca a pensarci. In carcere che fine faranno? Io spero che se li inculino a mestiere. Spero che se li inculino a sangue a mestiere. A mestiere. La legge del brasiliano, ragazzi, è sempre quella. Signor brasiliano, io lo adoro, non so perché. Ride, cioè, no, ma io, Rai ride intanto. No, io lo adoro perché alla fine è lui, capito? Cioè, non è che finge, è lui. Per esempio, tu vorrei. Puoi mai pensare di avere figli, brasiliano? Ma io, tu lo sai perché te ci parliamo anche in privato. Io non posso avere figli. Perché non puoi avere figli? Non posso avere figli perché ho un problema. Bravissimo, ce l'ho un po' leggeri, diciamo. Ma veramente? Diciamo, tramite un dottore io posso fare dei figli. Io domani, se ci dovessi avere un figlio. Però naturalmente non ce la no, fai. No, non ce lo posso avere. Ma perché Giuseppe? C'è un testicolo? C'è un testicolo che è come l'occhio. Sono monopalla, Giuseppe. No, poveretto. Sono monopalla, che puretà, sta buono. Ma io posso creare, autocreare sette sacchi e passa tutto. Fai due gemelli sacchi e via. 7.000 e vai. Francesco da Firenze, vai, però non lo fai, non lo farai. Lo faccio, come fai un figlio con la protezione assistita? È certo. E perché vuoi fare figlio? Perché lo voglio fare figlio? Perché voglio dare il cognome Minnocci. Voglio continuare a, che il cognome Minnocci continui. Dinastia, ne rete, non ha capito. Francesco, Parenzo, hai risparmiato 28.000 euro finora. Allora ce ne fa poche dei pippe. Francesco da Firenze, madonna mia. Gottardo comunque è simpatico come la gonorrea, veramente. Ogni volta che l'hai avuta, quindi l'hai avuta tu la gonorrea. Simpatico come la gonorrea, Gottardo, veramente. Che tu hai avuto? Sì, veramente, l'esempio di come la carità certe volte possa essere sbagliata. Sto fatto che Cruciani ti può fare la carità e sì, porta soltanto danni, veramente. Fai ridere. In realtà, come, in realtà, come in realtà non è carità. Non è carità, è che io so le malattie venere, io so Veneto, sei l'unico coglione che se l'è cavato senza niente. Porca benissimo. Ma dici che sappi, gli obesi gli fa male il coronavirus. Ti ringrazio per l'augurio. Ti ringrazio per l'augurio. Sei stato chiuso 7 mesi in casa, altro che andavi a Radio Cappuccino. No, andavo tutti i giorni a Radio Caffè. Tutti i giorni a Radio Caffè. E sono in onda anche domani mattina dalle ore 7. Su Radio Caffè. Certo, povero coglione. Assolutamente. A quell'ora lì non sanno che cazzo da pensare. Allora dimmi, Francesco, che volevi dire? Senti, Cruciani, ti volevo chiedere se hai sentito Briatore in questo periodo. Sì, l'ho sentito anche oggi, guarda, anche oggi l'ho sentito. Allora, quando lo risenti domani, perché sei un bocchinaro che un bocchino al giorno glielo vuole fare. Ma no, ma che c'entra, mica devo fare bocchino a Briatore. Quindi questa cosa qui, che io spero che lui, sopravviva, d'accordo? Beh, però spero che altro, virus, certo. Spero che, beh, non, insomma, se c'è uno che te lo merita è Briatore, però detto io spero che lui sopravviva, ma spero che il virus gli lasci un buco nei polmoni, un buco per ogni dipendente del billionaire che si è ammalato per colpa di quel citando Quirico. Quella testa di cazzo internazionale. Hanno lavorato consapevolmente assumendosi rischi, evidentemente, quelli a Bilone. Non dire cazzate. Ma non è che se è colpa di Briatore quelli che si sono ammalati a Bilone. È colpa di Briatore. Quindi non fare come al solito la troietta dei ricchi. Ma quale troietta? C'è già Gottardo per fare questa cosa qui. Lascia stare. Poi c'è Parenzo e dopo nel caso arrivi tu. A fare la troietta dei ricchi ci stanno già loro. Io spero gli rimanga un buco nei polmoni. Ma non si può sentire sta roba. Sei un cretino, se tu sai che io trasmetto su Radio Caffè, vuol dire che mi ascolti la mattina. Quindi se io guarda, lo metterei in Veneto anche se mi mandasse l'autorità giudiziaria, quindi stai tranquillo. Proprio io in Veneto non ci metto mai. Ma cos'hai contro i veneti, poveretto, che non sei mi altro? Fai tipo al cazzo tu, ed è una ragione in più, ce ne voleste anche solo una. Ma io vorrei interpellare, una persona che augura del male ad un'altra persona che è malato, secondo me ha dei problemi. Questo augura un buco nel polmone a Briatore. Del bene, questo è una suora, sta in convento. Ma quali sono in convento? Senta, io sto dicendo una cosa, pur di... Guarda, non ti preoccupare, non ti sono napoletana, sono schermo di Napoli, non ti preoccupare. Fermi. Il male possibile a Briatore, stai tranquillo. Fermi tutti. Allora, voglio capire una cosa da Francesco. Stai zitto un attimo, voglio capire una cosa da Francesco. Che ne pensi del brasiliano, caro Francesco, che è qui presente? Cioè. No, guarda, ti posso dire una cosa. Io l'ultima volta che ho parlato col brasiliano ci siamo acchiappati e tutto. Però mi ha convinto quando ha fatto quel discorso su quelle quattro teste di cazzo lì che hanno massacrato quel... Cioè anche per te andrebbero eliminati, non ho capito. Io allora guarda, io faccio arti marziali miste, quindi forse per me guarda li vorrei con me nell'ottagono per rompere il culo, perché per avere... Ne hai presi di colpi in testa, hai preso un sacco di colpi in testa, allora fermi tutti, tra poco, dopo l'interruzione, tutta la verità di brasiliano su che su 17:27, bada tutta la verità, nient'altro che la verità. Fermi tutti. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. sono messo Roma contro, ti ho preso le parti con tutta Roma, mi sono schierato dalla tua parte, brutto indegno, brutto infame indegno, perché tu sei un infame pure indegno, ti ho portato dentro casa mia, ti ho fatto cagare e pisciare dentro casa mia. Adesso non hai più il mio rispetto, il mio rispetto nei tuoi confronti non c'è più, adesso non si gioca più, fratelli. Tra poco, caro Gottardo, caro Parenzo, spiegheremo tutto. E il Brasile ci darà la sua versione di questo scontro finale, di questa litigata finale, di questa rottura con Fratelli. 17. Ah, Matteo, mi scendi l'aria condizionata, pare da Auschwitz qui dentro. Ma che dice? Ma mi scendi l'aria condizionata, fammi la cortesia. Ma che dice? Piano con i paralleli. Oh, sto a fare la schiuma. Eh sì, bravo, dai. Io. Ma che dice sto scemo? Auschwitz, però, è un paragone, mi sembra. Dai, io. Senti che sarò. Ho capito, ma sembra una forno a microonde. È pazzo, che dice? Ma è dai, scemo. Dai, chi è? No, chi Auschwitz non si dice mai Auschwitz. Si dice? No, sono ragazzi. Ma è scemo proprio. Callo. Michele da Roma, vai. Proprio un criminale. Ma addirittura, proprio adesso. Michele, dimmi. Sì, Giuseppe, no, sono mezz'ora che sto in attesa perché volevo parlare con la Maltani e dire che a sentire le idiozie che dice ogni volta avrebbe voglia di inventare un virus contro il veganesimo. Cioè, un guarda, virus... amico mio, cioè, allora, il punto fondamentale è questo. Sulla questione del terrorismo mediatico, secondo me c'ha ragione lei. Ma guarda. Non c'è dubbio, c'è il terrorismo mediatico, i numeri inventati, i numeri che non sono quelli, terrorismo puro. Io sono gottardiano da questo punto di vista. Ma no, ma quello non c'entra un cazzo, la carne è cancerogena, non lo dice l'OMS, dunque è una stronzata questo paragone. Però sulla questione del terrorismo ha ragione lei, cioè che ci sia terrorismo, che ogni giorno c'è il numero dei contagiati. Ma non c'è, ci sono milioni di persone che in Italia di quello hanno... che accade, dai. Ma quale consapevolezza? In Italia ci sono milioni di persone che hanno preso e che hanno il coronavirus anche in forma molto lieve. E non gli viene un cazzo. E dunque i numeri che sulla mortalità, sui ricoveri, eccetera, sono ancora più bassi, le percentuali sono ancora Io più basso, per dire che un carissimo amico di famiglia, sicuramente... un ragazzo di 19 anni che è tornato, che è stato ma che è figlio di una mia amica di Roma. Singoli. No, ma è uno. Aspetta, ma no, ma è più di uno. Io ne conosco tanti purtroppo. Questo ragazzo di 19 anni, da 20 è stato in Sardegna in vacanza. Sì. Da 20 giorni, sì. 20 giorni è bloccato a casa? No, davvero, sì, ma per fortuna no, ma ci mancherebbe altro. Ma da 20 giorni ha perso completamente, lo è stato, poi adesso l'hanno rimandato a casa. Ma 19 anni. Ma è un caso singolo, ma è un caso un po' citare i casi singoli, perché altrimenti è tutto drammatico, è evidente che è tutto drammatico quei casi, bisogna singoli, avere consapevolezza di quello ma che sta accadendo. Cazzo, ma nessuno dice che non... E con la ripresa delle scuole anche vero, Giuseppe, bisogna prepararsi. Gli unici numeri sui quali ci possiamo ma non sono numeri veri, se uno comincia a fare miliardi di tamponi è evidente che in Italia ci sono milioni di positivi, di gente debolmente positiva o di asintomatici, milioni. Lo dice in America la situazione è drammatica. Ma perché devi dire che è drammatico? Ma che vuol dire drammatico? Di 4 settimane, questo ma è il guarda che in America, nostro. Negli Stati Uniti c'è una mortalità più bassa, ma molto che in più bassa, molto più bassa è che in Italia, bassa che in ma Italia. Di gran lunga più bassa, è una altro cazzata questa cosa qua, altro di gran lunga numeri. Più bassa, siamo prigionieri dei protocolli medici, dei protocolli aziendali. In tutto il mondo si stanno ponendo il problema, in tutto il mondo, tutto, non ma, soltanto ma noi. Il mondo può anche impazzire. No, e noi facciamo i ganassa, e noi facciamo i ganassa, e dici ma quale stato d'emergenza? Ma che c'entra i ganassa, dai, su. Usama da Bologna, fammi sentire Usama da Bologna. Ma nessuno dice chi se ne frega del virus. Uno dice semplicemente che se tu vai a vedere i numeri, la mortalità in America è bassissima. Ci sono milioni di persone in Italia che adesso c'è questa ma cosa dei Macron tamponi e dei test sierologici per tutti. Ci siamo... Ma se Macron stava ha detto una cazzata, e Macron ha detto una cazzata. Ha detto mediaticamente una cazzata terroristica. Macron, e non lo ha fatto perché ha le palle. E chi se ne frega? Ma uno non può dire che Macron è quello che fa magliette da Lazio, no? Macron quello è Macron. Ah, non è Macron, quello che fa magliette da Lazio. Se la situazione peggiora, sono pronto a chiudere tutto. Ma che c'entra? Ha detto una minchiata. E non peggiora. Ha detto una cazzata. Un capo dello Stato non deve dire, un capo di governo come quello francese non può dire, ah, ci sarà forse possibile un altro lockdown. Ma vaffanculo, Usama da Bologna, dai. Pronto. Deve dare speranze, invece terrorizza la gente. Ma vai a cagare. Bravissimo, dai. Usama da Bologna. Anche perché tocca a Natuccia rubato. capito. Beh, adesso quello, insomma, Usama da buonasera. Bologna. Buonasera, sono Usama da Bologna. A proposito di terrorismo mediatico, io volevo dire a quel Mantovano. A qua adendo. A qua adendo Mantovano. Sì, allora. Volevo dire a quel Mantovano che parlava dei migranti e del coronavirus che ha rotto i coglioni, mi sono rotto le palle questa cosa dei migranti, sempre a parlare dei migranti, sembra che se uno è negro per forza. Ma guarda, oggi non abbiamo parlato nemmeno, oggi non abbiamo parlato nemmeno per un secondo, si sono osservati oggi, ne parlo io per la prima volta, dai, così riprendiamo un trend. Vabbè, Usama, ciao. Allora, caro Brasile, per chiudere la vicenda, cosa è successo con 1727? Cioè, qual è il motivo del vostro litigio? Cosa ha fatto? Perché lo considero un indegno? Cioè, addirittura una maglietta hai fatto. Indegno. Ma no, questa non l'ho, questa l'ho trovata. Praticamente mi sono venuto a trovare oggi dei miei fan. Indegno 1727. No, al primo punto non c'è sta scritto 1727. Beh, sì, è ribaltato. Come no? È ribaltato. Un mio fan mi è corso. Cioè, Fratelli, diciamo per chi non sapesse, Fratelli, quello che ha fatto il botto con la macchina della World Star 1727. No, perché io è l'altro coglione, so che sarei io, papà. No, mi raccomando, venga a prati di fasciolano così con papà. Sempre in coppia in genere. Quel personaggio che si stava facendo il video e poi si è schiantato con la macchina, sarà mica un esempio. Allora, che ha fatto? Ma non è che ha fatto o che non ha fatto, è un indegno, punto e basta. No, ho capito, indegno è una parola da criminale, però indegno. È un indegno, è una parola da criminale, ma lui vuole fare quello che non è mai stato, quindi... Adesso si sposa pure. So che si scopavano stare lì. Sono carucci insieme. Se sposa capo non stare che facessero l'attivismo, ma da vita privata non voglio parlare, soltanto perché ha fatto delle grandissime. Ma che ambiente? Ambiente tuo, papà Renzo. Intanto ormai siamo tutti nello stesso ambiente, caro papà Renzo. Allora dimmi che ha fatto. E allora ha avuto delle mancanze di rispetto molto grandi con persone che non se lo poteva permettere, e ha avuto il soprannome di indegno. Ah, così, dunque indegno. È indegno fino alla... Indegno, e a Roma si dice infame fracico. Ha fatto delle azioni verbali. Quindi le azioni verbali sono peggio delle azioni di manovra. E certo, ha insultato gente che gli stava permettendo di andare avanti, e così non si può fare. E allora sei un indegno, punto e basta. Adesso è tutto degradato. Degradato sei te e tutta Prati, amico mio. Sei degradato, sei te. È un ambiente devastante, quello che descrivi. Dare delle indegno a uno. Fermi tutti. Oh, Maurizio da Genova. Vai, Maurizio, dimmi. Ma ragazzi, seratone. Cioè, praticamente siete tutti all together. Ma sto trovando, dunque, aspetta un attimo, ho capito bene. C'è David, c'è Gottardo del Brasile. Sì, tutti, e poi, tutti vabbè, qua. Per forza. Non manca più nessuno. Ancora non si vedono i due. Ma che roba è? Ma che seratina. Uno sedete d'accordo. Dimmi, Maurizio, dimmi. Mamma mia. Ragazzi, comunque io quest'estate ho dato il bianco. Nel senso, proprio bianco era il luogo. Cioè? Nel senso che praticamente mi trovavo in Sicilia, no? Sì. Avete presente che cos'è la scala dei saraceni? No. Scala dei turchi, scusa. Ho già cefato la prima. Scala dei turchi. Dei saraceni. E allora? La scala dei fermo Gottardo, fermo. Vai sempre in bicicletta, Gottardo. Vabbè, fermi, non parlate allora, in cinque, dunque, solo in tre bisogna parlare. Allora, dunque, vado alla scala dei turchi. Culati, e nulla, sono andato con una mia amica, capito? Di quanti sono anni? Le 9 del mattino. Allora? Quanti anni l'amica, o quanti anni la scala? I turchi, quanti anni già ragazzi, state calmi, se no non si capisce un cazzo. Oh, ma che casino è, ragazzi, mettetevi in coda, Quanti anni ha l'amica? Contestualizziamo un attimo. Allora, Albertone, l'amica ha 40 anni, ok? Bene, ottimo. Da 40 che dura 20. Sì, no, è una milfona di quelle super aggregate, super, grande esperienza. Allora, sono le 9 del mattino, c'è un bel sole, 21 agosto, e nulla, e praticamente ci troviamo di fronte a questo miracolo della natura, questa enorme scogliera che poi è Falesia. Ma che hai fatto? E nulla, siamo lì ai piedi della Falesia, c'erano... 7-8 bagnanti alle 9 del mattino. Guardiamo. Avete trombato o no? Ti sei fatto un bocchino, che ha fatto? No, Austrigna, no. Che ha fatto? A Brasile abbiamo fatto una seduta di pissing ai piedi della scala fermi tutti. Top. Alle 9 del mattino non se ne è accorto nessuno, perché mi sono messo di spalle, lei si è messa cucciata nell'acqua proprio alla base della scala, perciò è stata una cosa bio. Capito? Giuseppe, cioè, sei stato non abbiamo toccato la scala, nel senso, allora, nulla non ho capito che... però allora voglio capire una cosa. Maurizio è un grande come dire fautore, un grande sostenitore, un grande raccontatore, un grande del pissing, cantore del pissing. Dunque tu hai praticato il pissing in questo posto che si chiama la scala dei turchi, dei saraceni, quello certo. Che è, no? Di turchi. Scala dei turchi, turchi. Lei com'era messa, scusami? Allora, lei si è inginocchiata, allora alla base praticamente devi sapere che ci sono tanti scoglietti, lei si è messa giù, hai capito? Si è messa praticamente inginocchiata e io di spalle a tutti gli astanti, ma c'erano 8-9 persone, gli ho pisciato addosso, praticamente gli ho pisciato addosso. Ha fatto bene, vai da lì, era una turca, era una turca, certo, bravo, ha fatto bene, vai da lì. Speriamo che era dolce la piscia, ma lì, se no, ai 9 di mattina sai che piscia d'amara. Ragazzi, devo dire che Brasile, oltre a essere simpatico, anche intelligente, perché ha capito subito. Certo. Scusami, capito, Maurizio, turchi, ma tu non hai. Scusami, Maurizio, siccome recentemente il Canada e altri paesi hanno detto che il sesso in questo periodo bisogna anche stare attenti, bisogna anche prendere delle precauzioni, addirittura mascherine, il bacio, no? Sì. Mi sembra che tu te ne fotta di questa cosa qua, perché il pissing. Ma io, guarda, mai come questo è capitato. In budo, va. Ascolta Brasile, ma te conosci l'astumauf, no? Esatto, è tutta l'estate che lo pratico. Ma faglio lavare bene, però. No, scusate, che cos'è che pratichi? Culo e bocca, culo e bocca. Fagli lavare bene il culo, fate lì. Cosa che te dice ciao? Cosa che puzza di merda? Ragazzi, è il top. Ma soprattutto mentre fai pissing, fare culo bocca subito è il top. Sì, è il massimo. Mamma mia, ciao pissing, ciao. Delle vette. Ti saluta pissing. Ciao. Beh, non è male, non è male, ragazzi, Non è male come prima puntata, diciamo. Giuseppe è diventato Barzotto, lo dico subito. Dai, se vede il bozzetto da qua. Mamma mia, ne vale. Te giuro su Dio. 50 puntate. Noi di che bozzetto che gli è venuto. Girate un po', Giuseppe. Allora, ognuno di noi ha una diversa idea dell'amore. Mamma mia. Una ragazza che conosco ha detto: "Sapevo che mi amava quando non mi veniva in bocca". Chi ha scritto? Chi è questa frase? Ricordo, te dica la verità. Andy Warhol, Watson. Quello elementare, quello là, Alessandro Damassa, vai, Alessandro Damassa. Oh, mamma mia, buonasera a tutti. Dimmi. Io volevo fare solo una domanda, ma Radio 24, comunque una comunità, una delle prime radio d'Italia, ha bisogno di invitare in trasmissione o farlo stare in trasmissione un grande come una zanzara, non è un essere umano, è una domanda, state diventando patetici. Scusa, a nome dell'azienda le chiedo scusa. Vatta a mangiare, minestrina, da cuore. Alessandro, fermo, che sei? Alessandro, non ho capito. Alessandro? Alessandro? Ha detto una cazzata e è cascato. Io non so cascato, ti faccio cascare, fratello. Ma si può chiamare fascisti in trasmissione, fascisti, che poi... Ma io sono anarchico, amico mio. Il brasiliano anarchico, io sono Dose Magna, viva la Spagna. Vai a mangiarti la minestrina, vai. Col brodo, vai. Tu sei un deficiente. Vatti a mangiare la minestrina. Come fanno un po' tutti? Vatti, io sono Dose Magna, viva la Spagna, stupido. Vai a mangiare gli straccetti, vai. ma cammina. Vai. Ti porto io. Ma tu me, ma dove? Ho fatto del cariolano. Che me fate? Ma tu, ma dove vai, amico mio? Io non ho capito una cosa, Alessandro, perché cosa contesti? Non ho capito. No, possiamo... Io contesto Radio 24, ma... non contesto una zanzara, uno grande come la formica nel mezzo, che è quel deficiente che sono i pagliacci. I pagliacci alla fine si spigliano la sera, invece lui rimane pagliaccio fino a che non vai dentro la casa da morto. Sì, è morto, asci addirittura, a parte, brutto a fame. Questo, a parte questo, io ce l'ho... Ma la morte non si augura a nessuno, come perché asci? Questi elementi, Ma mo chiamiamo a te la prossima volta, dai, così ne manca la famiglia tua, ce ne vede. Ma che la lascia per la famiglia mia, che fatto? Ma io non ho capito bene, che cosa non ho capito perché non posso. Io contesto voi, contesto ma tu contesta te stesso. Vatti a fare una cagata al cesso, vai. Ma io non ho capito, non ho capito. Io vorrei sapere per cosa chiamate sta gente. Ma fateli i cassi tu, oh. Ma scusami Alessandro, abbi pazienza. Sei stato qui ad ascoltare, evidentemente qualche ragione c'è. Allora bravo, qualche ragione. Ascolta zitto. Ascolta sempre la zanzara. E questa qualche ragione c'è. Dunque, hai ascoltato e sei rimasto inorridito dalla presenza del brasiliano. Sono rimasto ma che brasiliano. Ascolta e stai alla cuccia al guinzaglio. Sito alla cuccia, vai. Fermi tutti, ragazzi. Vai, fermi. Acciodola. Italiani! Italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lei ha ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio, voglio ridere. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.